Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eppure sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono volpi di colle, stofanti di là, mille topi, tutti per te. Me sono le stesse che poi pungeranno te. No, basta, non voglio sentire canzoni questa sera. Non voglio sentirti cantare. Non voglio sentirti cantare. Sono le 18:35. Inizia la zanzara, caro Parenzo. Eccoci pronti da Roma, tonici, collegati, pronti a dare notizie e dare grandi, soprattutto grandi testimonianze, come al solito. Bene, subito il numero per entrare nei nostri cuori, per entrare in contatto con questi due cialtroni. 800 24, scusa se ti ho dato del cialtrone. Il primo sono io, chi è l'altro? Chi è il secondo? 800 24 00 24. Vorrei partire da una dichiarazione del ministro Fornero. Ministro Fornero, certo. Sì, che dice a proposito della sua famosa intervista al Corriere della Sera, da cui è nata una discussione surreale sull'articolo 18, cioè concretissima ma surreale, perché poi i protagonisti smentiscono tutto, in particolare il ministro Fornero. I giornalisti tendono trappole, ci sono caduta. Ma quale trappole? Di cosa stiamo parlando? Il governo tecnico, il governo degli esperti, non ne posso più. Io ho riletto quell'intervista. Ci ho visto un'apertura, sì, è menzionato anche perché i giornalisti, lei lo sa meglio di me, sono bravissimi a tendere delle trappole, e quelli che come me non sono abituati a un rapporto quotidiano con i giornalisti ci cadono facilmente nelle trappole. Quindi c'era questa menzione dell'articolo 18 e io, nella mia ingenuità, devo dire, ho detto ma si può anche parlare di questo. Non andare finché il gallo canta. Nella mia ingenuità. Quindi ha detto che si può parlare. Peraltro, il ministro Fornero, che io apprezzo e che secondo me sta facendo una bellissima riforma per quello che riguarda le pensioni, non è che l'ha detto subito quando ha letto l'intervista, l'ha detto quando è scoppiata la polemica. Che c'era una trappola. La trappola era sin dall'inizio oppure se ne è accorta un paio di giorni dopo? Punto interrogativo. Non ho nulla in mente sull'articolo 18, ecco la grande retromarcia. Tant'è che oggi, pochi minuti fa, in un'intervista a Repubblica TV, il segretario generale della CGIL, la mitica Susanna Camusso, ha detto la questione è archiviata. Niente, non se ne parla più, via. Io non avevo e non ho oggi in mente nulla che riguardi in modo particolare l'articolo 18, lo voglio ribadire, ma era come dire: siamo qui noi quattro, dobbiamo parlare di lavoro. Possiamo parlare di lavoro elencando i... Bene, insomma, pare ci sia stato anche un rimprovero, una bella, come si dice? Filata d'orecchie. Bravo, da parte del Premier Monti nei confronti del suo ministro. Passiamo a qualche... Filata d'orecchie rispetto alla presenza del signor Giarda, diventa, come dire, parlando di questo governo, una battuta stupida. E chiedo scusa. No, però, però... E chiedo scusa se... Ma l'interessato in questo caso non è il ministro Giarda, bensì il ministro Fornero. No, lo so, però non si parla mai di orecchie. Cialtronate del giorno. Partiamo dal signor Razzi. No, ma perché lei? Io Antonio Razzi, lo sai, io sono appassionato, io voglio scrivere un libro su popolo e territorio, bobolo e territorio. Com'è che faceva il rappresentante palestinese in Italia una volta, nemmeno a Malta? I palestinian bivol e buono, Israele e bobolo da divo, gamigazzi e esplosioni di gioia e libertà. Ma come esplosione di gioia e libertà? Va bene. Explosion of freedom. Israeli people want to war. Israeli. Allora, non c'entra niente, ma l'onorevole Antonio Razzi, popolo e territorio, dice che è Barbato che dovrebbe dimettersi, dovrebbe vergognarsi perché filma le persone all'interno della Camera. Oggi è stato anche ammonito dal presidente Fini, che gli ha detto a Barbato, figuriamoci un po', non si permetta più di girare filmate all'interno della Camera. Razzi, sentiamo il mitico Razzi. Volevo chiederle solo delle polemiche che l'hanno coinvolta in questi giorni, le chiedo di dimettersi. Non c'è niente da problema. Le chiedono da tante parti, le chiedono di dimettersi, insomma le frasi che sono emerse sono abbastanza pesanti. Ma si devono dimettere quelli che hanno combinato, organizzato questo. Ma cosa pensa del gesto di Barbato? dirà la magistratura. Non c'è niente problema, pure non è male, eh? Niente problema, niente problema. Italiano, ma è l'italiano di Popolo e Territorio, certo. Va bene, dai, non infieriamo troppo. Bricolo, il mitico Bricolo, capogruppo del Senato della Lega. I confini degli stati non sono eterni, sempre per la questione della Padania. Beh, lo sappiamo che i confini degli stati, anche questo qua è Monsieur La Palisse, mi sembra, no? Certo che i confini degli stati non sono eterni, nessuno la nega, la storia lo suggerisce. Questa crisi europea e mondiale non lascerà le cose come stanno. Popoli e regioni europee saranno costretti a parlarsi. Potranno così nascere nuove alleanze. Potranno anche cambiare i confini degli stati, che ricordo, non sono eterni. E siamo tutti spaventati anche quando Bricolo dice: non affondiamo con voi, abbiamo riaperto il Parlamento padano. Lo spauracchio del Parlamento padano. Ma Federico Bricolo pensa di essere Lucio Caracciolo di Limes che ridisegna i confini. Ma che dice Bricolo? Dai, Bricolo, va giù. Ma noi non abbiamo nessuna intenzione di affondare. Signor Bricolo, la prego di concludere. Concludo, Presidente. Il Nord troverà altre strade. Abbiamo aperto il Parlamento della Padania. È lì. Vedrete. È lì che ci confronteremo con la nostra gente, con i nostri lavoratori e con i rappresentanti delle nostre imprese. A questo punto ci vuole, prima di presentarmi... Ma perché? Ma posso dirti che ogni volta che sento il Parlamento della Padania mi viene da ridere? Abbiamo aperto il Parlamento. Intanto in sottofondo, cari ascoltatori della Zanzara, voi in tantissime che siete in ascolto, stai zitto, voi tantissime che siete in ascolto dalle macchine, dagli uffici, sì, dal computer, dai gabinetti, dalle case delle vostre amiche e amanti. Bravo, beccatevi l'inno della Corea del Nord e in sottofondo le frasi di ieri del signor Rizzo. Bravissimo. Meglio vivere in Corea del Questa Nord. È una genialata. Se io devo scegliere se stare in Guatemala o a Cuba, sto a Cuba. Se io devo scegliere se stare in Italia o a Cuba, il paragone non regge, perché bisogna dire preferisce stare in Italia. Lei, Francia, se dovesse Italia, scegliere, va in Corea del Sud o in Corea del Nord? Beh, se fossi un operaio probabilmente sarebbe meglio stare in Corea del Nord. Va bene, siamo qui. Tu lo sapevi, caro Parenzo, che il ministro Patroni Griffi, che è il successore in sostanza del signor Brunetta, il successore di Brunetta, il ministro Patroni ha comprato una casa al Colosseo, così come titolano molti. Patroni Griffi. Ma quanti sono? È uno. Sia Patroni che Griffi, Filippo, due case. Filippo, una. No, una sola. Ah, ecco, Patroni e Griffi. Insieme, quindi. Piuttosto... Patroni e Griffi stanno insieme in una casa. Sì, no, è una sola persona. Ah, Filippo, okay. Patroni Griffi. Sì. Tu ogni volta che c'è un doppio cognome pensi che ci siano due persone, no? C'è una sola persona, Filippo Patroni, che ha però una casa piuttosto grande con 5 vani. Ecco, vedi che si vede che sono in tanti. 5 vani, in località Colle Oppio, vicino sempre al Colosseo. Sempre posti di merda. Dalle parti più o meno dove abita, dove c'era la famosa casa di Scaiola. La famosa casa di Scaiola, sostanzialmente al prezzo di con un grosso sconto per una vicenda che giudiziaria molto lunga, in cui è stato coinvolto anche un deputato del PDL che si chiama Giuliano Cazzola. Buonasera. Buonasera. Come sta? Bene, abbastanza. Ma lei bene. Abita nello stesso palazzo del signor Patroni Griffi? Sì, abito nello stesso palazzo dal 94. Dal 94. Senta, E com'è, una bella casa? Ma è un palazzo dei famosi, cioè siete tutti più o meno conosciuti, famosi? No, siamo io e lui, che peraltro siamo una persecuzione degli altri inquilini, quali sono pensionati, persone assolutamente normali, e ogni tanto si trovano sbattuti sui quotidiani. E ci dicono... Ci hanno detto, a me ricordo che mi dissero: guardi, per favore, non faccia causa all'INPS perché insomma ce la fa perdere, ci pensiamo noi, no? Ma voi perché avete fatto causa all'INPS insieme al signor Patroni Griffi, che è uno solo, ripeto? No, allora, diciamo, lì ci sono 20 famiglie, il problema è quando l'INPS ha dismesso esatto, gli appartamenti. Ma lei ci abitava in quanto ex dirigente dell'INPS? No, io ci sono andato a stare quando con l'INPS non aveva nulla da fare, anzi questo è da chiarire rispetto all'articolo di oggi. io ero presidente, sono stato dal 2002 al 2007 nel collegio sindacale, però ecco, la gestione delle dismissioni era fatta l'agenzia del territorio, sì. Quindi non è mai arrivata una delibera in consiglio d'amministrazione che riguardasse quelli. Vabbè, però lei ci abitava, però, abitavo da prima, però ci abitavo da 8 anni prima. Da 8 anni prima di entrare nel collegio sindacale dell'INPS? Sì, abitavo da 8 anni prima. Beh, però poi non è un non sono tutte cose casuali. Se lei sta in una casa e poi alla fine va a lavorare in un posto, cosa fa? Viene via? C'è incompatibilità? Beh, insomma, no. Non lo so se è incompatibilità. Se lei paga l'affitto regolarmente, cosa fa? C'è incompatibilità. Però non può essere un caso. Cioè, lei no. Abitava in un palazzo dell'INPS e successivamente è andato a lavorare all'INPS. Cioè, la cosa no, io ero dipendente del Ministero del Lavoro e appunto. Mi hanno mandato a fare il presidente del Consiglio dei Vicini dell'INPS. E quando l'INPS l'ha messa in dismissione, sì, da casa. Sì. E quando l'aveva valutata, non l'INPS, ma insomma lo Stato, l'aveva valutata come il territorio aveva detto che era un immobile di pregio. E invece non era immobile di pregio davanti al Colosseo? Invece, ma scusi, adesso chi decide? Lei decide? No, io no, no, una domanda, allora, faccio c'è una stato, c'è stato una ci sono stati due gradi di giudizio. Uno del TAR che ha fatto un giudizio di carattere procedurale, quindi sì. È uno del Consiglio di Stato, il quale ha nominato un perito, sì. Il quale sulla base della relazione del perito, il Consiglio di Stato ha detto quell'immobile, sì, non è di pregio. Peraltro, scusi, voglio specificare che il signor Padroni Griffi, che insieme ad altri inquilini abitava, è un consigliere di Stato. Ecco, pure. Vabbè, adesso però, scusi. Se no, ma così è, è una piccola annotazione. Se si deve arrivare sostanzialmente a pensare che il Consiglio di Stato o il TAR siano stati in qualche modo influenzati da Padroni Griffi, scusi, adesso questo no, ma io infatti non ho detto niente, però è vero o no, è vero o no, è vero, no, però che la norma, sì, cioè quando gli inquilini vinsero, sì, la causa il governo ritirò la dismissione con una norma di legge inserita, sì, è vero, poi però avete ottenuto finì in Corte Costituzionale, sì, e la Corte Costituzionale ha cassato quella norma. No, ma questo lo capisce, adesso non stiamo sulla la questione di fondo. Cazzola, solo Parenzo la abbraccio fortissimo. Io ho capito chi è, certo. Ci conosciamo da talmente tanti anni, certo, che la voglio abbracciare proprio forte e insisti su questa cosa qua, ma allora? E allora la cosa è questa: piove sempre sul bagnato, questo è il concetto. Cioè, chissà come mai lei, che è anche una bravissima persona, ma molti altri che lavorano nei gangli dello Stato, che sono deputati, sì, che sono potenti, eccetera, riescono però sempre ad ottenere, che sono nei consigli d'amministrazione, eccetera, delle case a prezzo agevolato, non a Torbella Monaca, al Prenestino, a Cinecittà, a Bubu. Ma davanti al Colosseo, un attimo solo, il traffico, torniamo subito. Bravo Parenzo. Bene, allora 800 24 00 24, il caso della casa, scusate il gioco di parole, del ministro Padroni Griffi e non solo, però insomma il personaggio più in vista è lui, perché adesso è al governo, un palazzo in via del Monte Oppio a Roma, una sorta di caso Scajola 2, anche se le cose sono molto diverse naturalmente, perché qui non c'è nessuna questione di tipo giudiziario, e una casa in cui un palazzo in cui abita insieme ad altri inquilini anche Giuliano Cazzola del PDL, che gentilmente è qui con noi e ci mette la faccia e spiega secondo lui le cose come sono andate. Cazzola, senta una cosa, la sua casa è grande come quella di Padroni Griffi, cioè 5 vani? Guardi, io la casa di Padroni Griffi non l'ho mai vista, la mia è 60 metri. È la casa più piccola che ci sia lì dentro. La sua è 60 metri. Anche la sua è stata ottenuta con questo sconto del 30% più un altro sconto, insomma 2300 metri. Come quelle di tutto il palazzo. A un prezzo molto vantaggioso, dica la verità, oppure è una catapecchia? No, ma scusi, io non voglio mica dire, no, la casa io se viene a Roma gliela faccio vedere, la casa era una casa cadente, peraltro quando ci sono entrato non c'erano i servizi igienici, non c'era riscaldamento. Addirittura. Era un campo vero. Ma guardi, ci sono ancora, se lei ci sono, quello che sta sotto di me ha ancora la stufa. La stufa. E ha il gabinetto in terrazza. Quanto ci ha speso lei, scusi? Il gabinetto in terrazza. Io quando c'entrai ci spesi 30 milioni. 30 milioni, cioè, ma io lo considero una fortuna, non voglio mica fare il benefattore. Mi dissero, guarda, te la diamo così. Cioè, sono stato alla fine sono stato un privilegiato. Sono un privilegiato punto. No, alla fine, ma alla fine è chiaro, insomma, che ho avuto. Io non avevo casa, mi hanno dato una casa, quella casa lì, e allora nel 94 non pensavo minimamente che ci sarebbero state le dismissioni. Mi dissero: guarda, la prendi così, ovviamente la prendi a equo canone, perché gli enti previdenziali affittavano a equo canone, sì. e io ci ho fatto dei lavori, feci dei lavori, perché non c'era il bagno, non c'era il riscaldamento, e feci dare di bianco. Però lei come si considera? Mi dica la verità. Io considero una fortuna, un colpo di fortuna, insomma, voglio dire. Però è favorito dal suo ruolo. Considero un colpo di fortuna, però adesso scusi, ci sono delle cose che sono legittime, delle cose che sono illegittime. Ma non sto dicendo che lei è un bandito, per carità. Cioè... Io non ho fatto nulla di. Peraltro, io quella casa l'ho avuta sulla base di 3 gradi di giudizio. Ma su questo non c'è una questione processuale. L'immobile di pregio non è che lo stabilisce lei o Rizzi. Però la zona è di pregio, non c'è dubbio la che zona la zona è di pregio, però è una giurisprudenza consolidata che è intervenuta su quel palazzo e su altri. Vabbè. Che ha detto che la zona sia di pregio, ma bisogna guardare anche le condizioni del Però scusi, 2.375 euro, io sto parlando della casa di Padroni Griffi, immagino che per lei sia più o meno uguale, al metro quadro, con gli sconti, in una zona che è quella vicino al Colosseo, sarà pure una catapecchia, ma è evidente che è un affarone, grazie che nessun altro può permettersi. Grazie al fatto che molti inquilini erano già dentro con l'INPS, molti ci sono nati, e lei perché è un dirigente dello Stato, altrimenti quella casa non avrebbe. Quando me l'hanno data, me l'hanno fatto, io non ero assolutamente di. Ma era il Ministero del Lavoro, l'ha detto. Io ero appena uscito dalla CGL abitavo in un appartamento della CGL che l'avevo dovuto restituire, perché non è che l'ha avuta a caso con un concorso. Io ho chiesto al presidente Lips, che conoscevo, se me la dava. Appunto. Tenga conto che il presidente Lips, il presidente di DJ, quando si è scoppiata la cosa di Affitopoli, sì. Sono stati processati e assolti perché loro non erano assolutamente Cazzola. Ma lei quanto c'è stato senza riscaldamento dentro quella casa? No, quando io ci ho fatto i lavori sono entrato con subito, riscaldamento. Scherzo. Subito? Sì, io sono entrato. Scusi, la casa di Padroni Griffi com'è? Che è molto grande? Come tutte le altre. Intorno ai? Sono tutte case, credo, sui 120-150 metri, anche se io non l'ho mai vista. Un bel colpo, pure quello è un bel colpo. Però sono tutte case grandi, sono tutte case abbastanza grandi. La mia credo che sia la più piccola. Insomma, lei chiese al presidente dell'INPS: mi dai una casa in un palazzo dell'INPS, e andò in questo palazzo dell'INPS. Dopodiché diventò sua. Dopodiché, dopo una vicenda giudiziaria. La data mia è nel 2008. Dopo una vicenda giudiziaria che è arrivata in Corte Costituzionale. Sì, è vicenda giudiziaria, perché altrimenti avreste pagato di più. Questo è il punto. Però avremmo pagato di più, certo. E non vi siete accontentati di avere una casa lì, avete chiesto, diciamo, un ulteriore sconto, perché secondo voi non era di pregio, giusto? Ma questo l'ha riconosciuto la legge? Sì, no, l'ha riconosciuto la legge, per carità. Parenzo, che stavi dicendo? No, che solo per fare la sintesi della cosa. Cioè, se si lavora in determinati ambienti, nello Stato, in questi enti, eccetera, ad alto livello, è più facile avere delle case di pregio. Si può dire questo, cioè, senza commettere nessun tipo di reato. Ma la verità è che non è che un pensionato dell'INPS potrà mai ambire ad avere quella casa lì. Cazzolino mio, cioè, le cose sono un po' queste. Allora, la sintesi. Guardi, in quel palazzo lì. Ci stiamo io e Padroni Griffi, poi ci stanno 18 pensionati dell'INPS. Lei? Ci stanno 18 pensionati dell'INPS. Ecco, così, a buffo, 18 pensionati dell'INPS. Ma Rizzo... se non sono 18, sono 17, sono persone normalissime. Se non sono pensionati dell'INPS, saranno pensionati dell'INPS. Ha letto l'ultimo articolo di Rizzo e Stella? Quello di oggi? No, sì. Quale? No, quello su questa vicenda qua. Quello di oggi, sì. Comunque, sai, io adesso non so come reagisce Padroni Griffi, però immaginare che ci sia stata un'influenza sua sul TAR, sul Consiglio di Stato e persino sulla Corte Costituzionale. Ma no, quello no, la Corte Costituzionale su un'altra cosa deliberava e decideva su un'altra cosa, sul fatto che fosse possibile cedere addirittura quell'immobile o no, ma è piuttosto bizzarro, no? Cioè, io non dico che è stato influenzato, per carità, però quando fu deciso se questo immobile era di pregio o no, non c'è dubbio che decideva il Consiglio di Stato e Padroni Griffi era un consigliere di Stato, questo è un fatto, cioè oggettivo o no? Vabbè, ma questo è un fatto oggettivo, scusi. Cosa c'è? Non è mica lui che ha giudicato. No, certo, ci mancherebbe altro. Cioè, ci mancava pure che giudicava lui e poi faceva. Di Pietro non ha abusato dell'automobile o del prestito, non l'ha deciso un giudice. Sì, no, ma certo. Allora, quando si arriva e lui è un giudice, ad una certo, controversia giudiziaria, sì, c'è sì, un giudice che decide, no? Ma tra l'altro la cosa curiosa, è che Malinconico era l'avvocato che adesso è al governo insieme a... Ma queste sono tutte casualità, naturalmente, che veramente non hanno nulla a che fare con la vicenda. Senta, ma si sente un po' attaccato da Rizzo e Stella sul Corriere, eccetera, lei? Ma guarda, io sinceramente sono entrato in questa vicenda non come... trovo comunque che ci siano anche nella mia, come ricordo, la mia vicenda, ci siano delle forzature, perché mettete insieme primo che io, quando ho comprato la casa, non ero più all'INPS ma ero in pensione, ero già andato in pensione. Due, che quando sembra che io abbia tramato per andarla a vendere, quando in realtà in consiglio di amministrazione dell'INPS questa cosa non è mai stata. Comunque, io devo concludere, ragazzola. Lei dice che sono membro della commissione di vigilanza e di previdenza, e ci sembra che anche questo c'entri con la casa, quando io lo sono diventato, quando sono diventato deputato. Siamo qui 19:17, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta. Oggi non ci sono i titoli del TG3 perché la Rai fa sciopero, a qualcuno di voi importa, ad altri no. Roberto da Roma, buonasera. Buonasera, signor Cruciani. Dica. Niente, io volevo intervenire a proposito della Lega, che questi ultimi tempi si sta facendo sentire un po' di più, no? Sì. E volevo dire che la Lega comunque fa le guerre. Le guerre una volta si facevano per conquistare i territori, giusto? Sì. La Lega invece fa le guerre per richiudersi nel suo posto d'oro lì, che sembra che tutto c'hanno tutto loro. Però io spezzo pure una lancia a favore loro, perché tutte le cose che voi dite la sera, quando io ascolto sempre la sera la radio, è il fatto degli immigrati. E loro hanno ragione, perché gli immigrati non è che uno deve essere razzista, però hanno bisogno di regole. Tutto lì va interpretata la cosa, no? Se uno poi... ci mette mille cose sopra un discorso, è normale che poi fomentiamo, no? Aggraviamo la cosa. Però la Lega, quello che voleva dire la Lega, perché il modello Lega, secondo me, è un modello da esportare al sud. Scusi, però Roberto, io francamente di quello che ha detto lo sai che non ho capito nulla. Prima dice la Lega si rinchiude, la Lega è passata all'attacco, eccetera. Il fatto della secessione, loro vabbè, lei non lo approva, d'accordo. Poi ecco, però il fatto di come ragionano, non è che è sbagliato, tutto sbagliato. Ma insomma, su che cosa, Roberto? Su che cosa? Sul fatto delle regole, le regole che loro vorrebbero mettere, come vorrebbero che funzionasse tutto il paese come dovrebbe funzionare. Vabbè. Roberto, grazie, caro da Parenzo, si sono aperti. Grazie, gli dici pure grazie, dico io quello. E che devo fare? Dimmi. No, grazie, va bene. Giacomo da Milano, buonasera. Giacomo Maciago, il professore, l'economista? Giacomo da Milano, no, non è Giacomo Maciago? No, ma è un ascoltatore che magari è molto più degno di Giacomo Maciago, con tutto il rispetto per il professor Maciago. Sì. Giacomo, dica. Peraltro io insegno, quindi... Appunto, insomma, Parenzo è come al solito dissacrante, ma anch'io, per carità. No, prima di interpellare il signor Giacomo, devo raccontarvi di un regalo che è stato fatto dagli eurodeputati del PDL al signor Berlusconi. Bravo. Ieri nella riunione che c'è stata a Roma. Zeus che rapisce Europa sotto forma di toro e il successivo stupro della giovane fanciulla da parte del vecchio padre degli dèi trasformatosi in aquila. È il tema della scultura in bronzo che è stata regalata a Berlusconi dagli eurodeputati appunto per Natale. L'intenzione era quella di rappresentare l'Europa violentata dalla coppia Sarkozy-Merkel, il toro e l'aquila, ma raccontano che il cavaliere si è messo un po' a ridere per questa associazione mentale. D'altra parte Berlusconi ha passato gli ultimi anni, come sapete, a difendersi anche dagli scandali sessuali. Insomma, una gaffa abbastanza clamorosa, secondo me, questo regalo al cavaliere da parte degli eurodeputati, che rappresenta uno stupro che voleva essere una metafora politica, ma in realtà è una mezza gaffa. Giacomo, è un uomo pazzesco. No, lui non c'entra niente in questo caso. E chi c'entra? Chi l'ha fatta l'opera? Scusa. L'opera l'hanno fatta, non lo so chi ha fatto l'opera. È un regalo degli eurodeputati del PDL a Berlusconi? Appunto, una gaffa pazzesca. Da parte degli eurodeputati del PDL, non da parte del PDL, non del PD o dell'UDC, però, capito? Sì, ho capito. Ma Berlusconi non c'entra un cavolo in questa, così, è semplicemente ha ricevuto il dono, non c'entra nulla. Giacomo, sembra giustificare. Sono qua. No, ma che giustificare che cosa? Tu hai detto poi. Vabbè, comunque sembra giustificare. Tanto abbiamo detto. Sembra giustificare. Già. Vabbè, ma io non giustifico nessuno. Ma non c'entra nulla lui. Ha fatto gli euro di monete. Vabbè, intanto comunque possiamo dire a Berlusconi che ci ha avuto questo regalo. Giacomo, dica. Anno zero va a cominciare. Servizio pubblico va a cominciare. Giacomo, dica. Ripronto, sono qua. No, niente. Tanto oggi ci sono le dichiarazioni di Mills che dice mi scuso con Berlusconi per tutti i danni che gli ho procurato, lui non c'entra niente, i soldi non l'ho dati a lui. Dichiarazioni importanti comunque all'interno del processo Mills. L'avvocato comunque Giacomo Mills. Eccomi qua. Vada. No, niente, io volevo fare riferimento all'intervento di Federico Bricolo, e trovo che sia un capolavoro comico, ma è la mia personale prospettiva. La Lega dal 1994 non ha portato a casa nulla, non ha portato a casa nessun tipo di obiettivo fra gli obiettivi che dichiarava di voler conseguire. Quasi nulla, sì, quasi nulla. Direi anche zero. Le faccio qualche esempio. L'ICI è stata, che è stata forse l'unica tassa federalista, è stata abolita. Un attimo solo. Chi stai chiamando? Giacomo, resti con noi, che lei è una persona molto arguta. Barbato? Chi è? Barbato, Cruciani, salve. Come sta, caro? Siamo in piena tempesta. Che è successo? Che tempesta? Francesco Barbato, deputato di Italia dei Valori, la storia di Fini? Sì, è l'ultima cosa, alla fine sono io il colpevole di tutto quello che succede in Italia, in Parlamento. Vabbè, un buffetto, Barbato, un buffettino le ha dato Fini, su, un buffettino le ha dato. No, ma neanche un buffettino, perché Fini non mi può dare buffettini, ma mica stai in trasmissione ora. Certo, no? Siamo qua, la Zanzara in diretta, certo, Barbato. È la fatta grossa, amico mio. No, io non ho fatto nulla di grosso, ho fatto il mio dovere. Che ho fatto di grosso? Ma no, ma infatti. L'ha fatta grossa, poco male, insomma. No, no, secondo Parenzo lei non doveva fare quei filmati. No, ma insomma, è chiaro che se uno lo fa si aspetta poi la sanzione, il richiamo, il buffetto, lo spruzzone. No, non c'è la sanzione, perché la casta non mi può sanzionare, non mi può giudicare. Ma la casta, anche lei fa parte del Parlamento, perché chiama la casta? Io sono un deputato, non faccio parte della casta, perché il deputato e il Parlamento sono delle cose sacre. Sì, ma Barbato, abbia piacere, stia a sentire, si faccia servire. Se lei fa delle riprese dentro la Camera, è evidente che poi qualcuno si incazza. Cioè sono le regole, e se lei lì dentro ha ripreso e non si può riprendere, io capisco che lei è il deputato Sherlock Holmes, ma va benissimo, però uno mette in conto che poi c'è il richiamo, la sanzione, ma poi in fondo non è successo nulla, no? No, a parte non è successo e non potrà succedere nulla, sì, per due ragioni. Cioè Fini Fini si è dimostrato uno che fa parte della casta in questo caso, con questo richiamo? Allora, del presidente Fini ne parleremo invece in altri filmati che ho. Cioè? Come perché seguiranno, perché come seguiranno? Cioè, ci sono dei filmati contro Fini? Dei filmati su Fini? Io ho dei filmati in cui vi farò vedere agli italiani come funziona la casta in Parlamento e fuori dal Parlamento. Ma che c'entra Fini, scusi? No, ma c'entrano tutti, perché, o meglio, quasi tutti, è meglio essere. No, infatti, quasi tutti, ma scusi. Ma che filmati ha su Fini, scusi? Prego? No, su Fini, siccome lei ha detto di Fini ne parleremo con altri filmati, che filmati ci sono su Fini? E ne parleremo, perché a me piace sempre parlare con atti e con fatti. Non veri. C'è dubbio, non c'è dubbio, sì, però allora, ci sono dei filmati, scusi Barbato, però lei ha detto una cosa, ci sono dei filmati che riguardano il presidente Fini? Ci sono dei filmati che riguardano l'attività del presidente Fini. Alla Camera? Punto. Alla Camera? Esattamente, e ne parleremo naturalmente quando lancerò e farò diventare pubblici questi. Non c'è dubbio, filmati. Non vogliamo che si riveli nulla, però io dico una cosa, Barbato, sono dei filmati in cui Fini parla oppure delle persone che o no? Se mi ha detto che non vuole rivelazioni. No, io le vorrei naturalmente, sto cercando di fargliele dire in maniera insomma. No, perché a me piace essere poi corretto nelle cose che faccio, allora dire adesso cose che possono sembrare allusioni così. Lei ha detto ho dei filmati che riguardano il presidente Fini, volevo sapere se parla lui in questi filmati, se lei ha filmato Fini, ha ripreso il presidente? Allora, né Fini, né il presidente Fini, anzi, né i deputati questori, né gli altri componenti dell'ufficio di presidenza, ovvero i vicepresidenti, 4 vicepresidenti, insomma, non possono processarmi, né tantomeno devono pensare che possono fermarmi, perché non mi fermo, non mi fermeranno, perché io la cassa la brucio, la cassa la distruggo e non mi può fermare nessuno. Questo è stupendo, io l'abbraccio. Barbato, secondo me lei sta facendo... No, no, un attimo solo, scusa un attimo. Parenzo, perché lo attacchi? Non capisco perché lo attacchi. Ma perché lo attacco? Se l'onorevole Barbato dice che anche degli altri filmati sul presidente Fini allude, non ci dice su che cosa, è chiaro che poi uno si incazza, se lì dentro non si può riprendere, si aspetti la sanzione. Lui deve dire io brucerò la cassa, ma che cazzo brucia la cassa? Dentro il Parlamento non si può riprendere. Lui l'ha fatto, adesso allora, si vanta di averlo fatto, dice che combatte la cassa, lui non ne fa parte, dice che ha dei filmati su Fini, che non si capisce che quali no. filmati cos'è, che filmati possono essere Fini, che mangia un arancino alla allora, camera, ma ti io ho ore di filmati all'attacco, Barbato, all'attacco perché fa vedere agli italiani come funziona male una certa politica, ed è di questa politica che dobbiamo disfarcene. Io farò di tutto per eliminare questa politica fatta di privilegi, di ruberie, insomma, di tutti gli sprechi di questa politica inutile. Specialmente oggi agli italiani bisogna dare delle risposte, e allora io continuo, a meno che non permetteranno di eliminarmi, ma io vengo dalla terra, io sono nato dove è nato Giordano Bruno, e devono bruciare i vicini se vogliono fermarmi. Diversamente distruggerò questa casta che è in Parlamento e fuori dal Parlamento. Questo è l'annuncio di Barbato. Dunque ci sono molti altri filmati che lei ha, come dire, in archivio. I filmati di Barbato. Esattamente, esattamente. E ricordate un'ultima cosa. Io da deputato della Repubblica, quando sono in Parlamento, svolgo una funzione pubblica, quindi ho il dovere di denunciare situazioni irregolari, illegali, insomma tutto quello che ho visto. È un mio dovere denunciarlo, perché in quel momento io sono un pubblico ufficiale, ed un pubblico ufficiale è un servitore dello Stato, e lo Stato non si serve. Parenzo, non si capisce niente però se parlate insieme, David. Sì, non mi fa capire, mentre infatti che cosa mi chiedeva? No, vada Barbato, lei ha il dovere... No, volevo dire che dovrebbero farlo anche gli altri deputati, quello che ho fatto io in Parlamento, perché noi deputati siamo dei pubblici ufficiali nell'esercizio di una funzione pubblica, anzi nel più alto consesso della Repubblica Italiana, e quindi sarebbe una ragione ancora più forte per comunque denunciare. Fini non mi può fermare, lei dice. Né Fini né nessun altro può fermarmi, perché davvero ne abbiamo le tasche piene, e di questa politica bisogna farne a meno. Sì. Oggi ho iniziato questo lavoro, anche oggi sono stato in Parlamento, e quando mi è stata notificata la diffida di Fini, presidente Fini, che ci ha fatto la bruciata? Nel modo più assoluto, l'ho letta, mi sono fatto una grande risata. Una pernacchia magari, no, facciamo una bella pernacchia. No, nel modo più assoluto, perché guardate, è risibile davvero che io debba essere interrogato o l'istruttoria di questo processo che mi vogliono fare lo inizino i questori, dei questori, dei deputati questori della Camera. Sì. Allora, ne parleremo meglio nei prossimi giorni. Sì, vabbè, queste sono minacce velate, Barbato. Non sono minacce, perché io parlo sempre con atti e fatti, e parlo sempre ma di che hanno verità. Fatto? Che ha fatto Fini? Che hanno fatto sti questori? Di che cosa sono colpevoli? Di sprechi, di ruberie, di frasi pesanti, di che cosa? Beh, i questori utilizzano dei mega appartamenti. E quello lo sappiamo. Fini invece? Lo sapete. Fini? E allora, del presidente Fini parleremo pure, sempre con a tempo debito, a tempo debito, naturalmente riportando fuori delle verità che oggi pensano loro di occultare, di coprire, di bloccare, ma ripeto ancora una volta, non mi bloccherà nessuno, perché devo continuare a fare il deputato per i cittadini. Benissimo, abbiamo la borsa, un attimo. Hanno bisogno di questo lavoro. Benissimo, adesso urge la borsa, 800 24 00 24, resti con noi perché vogliamo fare una sorpresa a una delle sue vittime di questi giorni. eccoci 19.35 800 24 00 24, sempre con David Parenzo in collegamento da Roma con Francesco Barbato, Italia dei Valori, il pasdaran dei filmati, in collegamento con noi sempre da Roma, credo. Abbiamo ancora Barbato, un attimo solo che devo concludere con Giacomo da Milano, poi le voglio chiedere una cosa che riguarda la sua attività da parlamentare. Giacomo, dica. Volevo dire che la Lega secondo me è uno scherzo. La Lega è uno scherzo, che vuol dire? Non ha conseguito nessuno degli obiettivi che proclamava di voler conseguire, dato i soldi a Catania, ha fatto assumere 5.000 persone alla regione Sicilia di più, ha dato soldi a Roma Capitale. Loro li chiamano compromessi, compromessi. Certo. Esatto, cioè, governare anche a fare dei compromessi. Ha ammazzato Malpensa, ha imbullonato alla sedia centinaia di terga, 2-2 con costi inenarrabili per lo Stato, ha dato la stura a tutta la pompa declamatoria nazionalista, compresa quella del principe degli Ottoni, che non so su quale colle risiede. Hanno fatto 14 secessioni dal 1992, ma probabilmente sono di più, io ho contato con un mio amico, si chiama Diego. Hanno fatto il Porcellum, che è uno scandalo per un federalista. Il Porcellum vuol dire prendere tutto il potere, metterlo a Roma, nel centro del paese, e metterlo nelle mani dei partiti. Quindi teneteveli stretti, chi crede nell'Unità d'Italia, chi è a favore dell'Unità d'Italia, se li deve tenere molto stretti. Grazie Giacomo, grazie. Barbato. Ma conoscete l'ultimo regalo che si è fatto ieri in Parlamento, che il regalo che ha ricevuto la casta parlamentare? Che è successo? Nell'ultima seduta di aula che abbiamo tenuto ieri, l'ultimo regalo alla casta è stato un regalo che è stato fatto proprio alla Lega, perché su proposta del Presidente della Camera Fini si è fatta una deroga al regolamento della Camera che prevede che ci siano 8 segretari d'aula, cioè i segretari d'aula sono dei deputati che hanno anche la funzione di segretario. E allora? Per questa funzione hanno un ulteriore emolumento e hanno una serie di privilegi e naturalmente nel regolamento è previsto che ce ne siano 8. Vabbè, allora? Ebbene, la Lega ha fatto richiesta, poiché ne aveva già uno di deputato segretario, dice: ma adesso noi siamo opposizione e quindi l'opposizione non può avere solo un deputato. Vabbè, la Lega voleva più segretari d'aula. E allora hanno fatto una deroga al regolamento. Vabbè, ma sono dettagli, va benissimo, Barbato. E hanno portato a 9 i segretari d'aula. Ma la cosa più assurda è che la Lega continua a tenere i 6 presidenti di varie commissioni parlamentari che ha acquisito maggioranza. Barbato, stavamo parlando d'altro. Fino a quando lei non ci dice che cosa c'è in questi filmati sufficienti, cioè lei capisce che non possiamo lanciare una bomba come questa sulla terza carica dello Stato, ci dica il contenuto di questi filmati, perché davvero è una cosa che ci sconcerta, non per saperne almeno il contenuto, quale sarebbe lo scandalo. Parliamo della terza carica dello Stato, Barbato, scusi se insisto, scusi signor Cruciani se insisto, ma è una cosa gravissima. Va bene, anzi il vostro lavoro di giornalista è un lavoro davvero che apprezzo moltissimo, perché così dovrebbero fare sempre i giornalisti. E allora ce lo dica. E allora io, per quanto mi riguarda, le posso dire che o si tratta della terza carica dello Stato o si tratta dell'ultimo usciere. Vabbè, questo lo sappiamo, lei non guarda in faccia a nessuno. Allora, cosa è successo? Potete essere certi che se con questa diffida, questa minaccia di sanzioni che prenderanno nei confronti che oggi mi è stata inoltrata, cioè Fini non si deve permettere, perché io ho del materiale su di lui, questo vuol dire lei. Nel modo più assoluto, ha fatto questo. Io voglio dire una semplice altra questione, voglio parlare. E qual è? Voglio dire che io continuerò in questo lavoro che ho fatto. E allora questo lavoro che ho fatto. Ma questo lo sappiamo, perché ce l'ha detto, che c'è su Fini? Allora, su Fini come su tanti altri con tanti altri elementi hanno una serie di privilegi, hanno una serie di atteggiamenti che ma lei ha filmato il presidente mentre parla? Allora io ho filmato il presidente, un lavoro con il quale ritengo di dover informare gli italiani. Ma questo lo sappiamo, ma c'è Fini che parla in questi filmati? Allora, in questo lavoro che sto facendo e che porterò avanti, devo, ed è mio dovere farlo, denunciare una politica immorale. Ma che, ma questo va bene, d'accordo, io voglio capire se Fini, in questi filmati c'è Fini che parla, sì o no? Allora, io le posso dire solo una mi cosa. Mi dica sì o no, e poi il contenuto. Allora, un attimo, no? Io ho le prove di come dall'ufficio di presidenza e dal presidente Fini fino all'ultimo peones che sì, ho intercettato c'è un comportamento non corretto, sì. C'è un uso improprio delle istituzioni, uso improprio delle istituzioni, degli uffici istituzionali, e okay, per questa ragione io nei prossimi giorni denuncerò tutto quanto. E innanzitutto comincio già a dirvi sì, che l'ufficio di presidenza composto dal presidente Fini, sì, dai quattro vicepresidenti, beh, dai sì, tre questori deputati non possono processarmi perché non hanno le carte in regola per processarmi. Dal punto di vista morale? Dal punto di vista morale? Dal punto di vista comportamentale nell'esercizio delle loro funzioni. Benissimo, benissimo. Perché hanno svolto un lavoro utilizzando con il denaro pubblico, uffici, appartamenti, pasti, insomma privilegi, anche Fini, sprechi, anche Fini? A tutt'oggi beneficiano. E allora, se agli italiani si chiedono i sacrifici, non possiamo consentire che questa casta continui a farla franca. Benissimo. E a vivere bene. Lei non mi ha detto, se c'è la voce di Fini in questi filmati, però. Allora, una cosa è certa, o si chiama Fini, o si chiama Pasquale Rossi, allora potete essere sicuro che lei va avanti lo stesso. Non farà sconti a nessuno, ma perché devo liberare questo paese da questa casta famelica. Allora, la casta famelica, senta un attimo, è vero o no che lei aveva un'assistente donna che pagava in nero, che l'ha denunciata, con cui ha patteggiato in tribunale? Nel modo più assoluto, beh, non come è no, affatto vero, c'era il mio portavoce che ha portato nel mio ufficio una sua amica. Infatti questa amica, quando mi ha citato, ha scritto nell'atto di citazione che da me non è stata neanche licenziata. Ma lei ha patteggiato o no? Non ho patteggiato, perché la signora, per la verità, che è venuta in ufficio... Scusi, quando le hanno fatto una domanda a Piazza Pulita, lei ha detto che ha patteggiato, mi sembra, o no? Nel modo più assoluto, perché... No, in realtà ha negato. C'è l'atto del... Però ha patteggiato, non mi dica, io non ho patteggiato con nessuno. C'è l'atto della causa, dal quale si evince che il magistrato, prendendo atto delle dichiarazioni della signora, che diceva di non aver mai avuto rapporti con me, di non essere stata mai né assunta né tantomeno licenziata. L'unica Dunque cosa lei che non ha mai patteggiato con nessuno? Nel modo più assoluto, l'unica cosa che ha fatto è di aver trasmesso all'ufficio di sicurezza, perché per poter essere nell'ufficio sì, doveva avere un'autorizzazione. Ma lei ha mai pagato in nero qualcuno? Mai? Mai. Io, tutti i dipendenti che ho hanno tutti regolari contratti con me, perché ecco, la morale è qualcosa che ti deve accompagnare. Vabbè, Barbato, ogni attimo della tua vita. Assolutamente. Bene, grazie, yeah, grazie a Francesco Barbato, grazie. Grazie a voi. Grazie, 19:43. Cosa devo dire? Devo insistere? Dice di no, non ha patteggiato, non ha mai pagato nessuno in nero. Ma no, poi... ma grazie, ha fatto delle accuse, avranno. Guarda che questa trasmissione che fa è molto buona, perché qui ho capito, ma io che cosa devo fare? È stato bravo. Cioè, è buona questa trasmissione, voglio dirlo anche al direttore Tamburini. Qualcuno dice, qualcuno sostiene. Qualcuno stai zitto, qualcuno sostiene che il in realtà, vabbè, poi ne parliamo di questa vicenda di Barbato. È una gravità inaudita. Ho capito, ho del materiale su Fini, io cosa devo dire? Adesso daremo tutto alle agenzie. Daremo tutto alle agenzie di stampa, come no, dire. No, ma dobbiamo dare tutto alla procura, quale alle agenzie? Vabbè, che cosa devo fare? Un attimo solo, fammi calmare un secondo. Questa è sempre la zanzara, che devo fare? No, tu niente, perché Sherlock Holmes, cioè il signor Barbato, Sherlock Holmes, capite che sono cose molto forti che ha detto. No, ma per carità, lui si assume sempre le sue responsabilità, signor Uso Barbato. Uso proprio dei mezzi della Camera, il Presidente che si sarebbe fatto i fatti suoi negli uffici della Camera, cioè accuse gravissime, di una gravità inaudita. E vabbè, siamo qui in diretta, ad ascoltare quello che ci ha detto Barbato, che abbiamo salutato, e sentiamo Riccardo da Treviso, buonasera. Buonasera. Buonasera signori, io volevo, ho lasciato detto, volevo fare una proposta, visto che i condoni non sono più proponibili a livello di condoni fiscali, di condoni edilizi, perché incentivano e perché soprattutto scontentano gli onesti. In questo caso, visto che si parla di nuovo di amnistia, proponevo il condono penale, cioè, per cui senso, invece di fargli uscire gratis, proponevo una somma da pagare per il condono, per cui il costo di un detenuto è di 120 euro. Dice pagare per uscire dal carcere. Pagare per uscire dal carcere. Adesso questo francamente mi sembra una in America si fa con prima della condanna, quando uno sì dove esiste la cauzione, se libero su cauzione. Esatto. Ho capito. No, in questo caso si tratta di dire perché devo regalare 3 anni. Abbiamo fatto pagare l'1,5% per i capitali scudati, facciamo pagare per la riduzione di pena, voglio dire, è un fosse così, diciamo, potrebbero solo i ricchi, perché io non mi scandalizzo sul fatto che comunque chi ha più soldi ha in teoria poi più possibilità, dunque non è questo lo scandalo, però insomma, solo i ricchi potrebbero uscire dal carcere, solo chi ne ha le possibilità. No, si parla di cifre. No, ma io capisco la sua provocazione, il modo per alleggerire la pressione sulle carceri potrebbe essere pagare per uscire così le organizzazioni sono pronte a pagare, quindi farebbe emergere il sommerso, che più sommerso non si può. Se io ho un buon estorsore, caspita, questo mi rende 10.000 euro alla settimana di taglieggiamenti, ho convenienza a farlo uscire a pagare per lui. Il discorso chiaramente economico c'è anche nelle fasi di giudizio, tra un collegio di difesa di professionisti affermati o un giudice, come un avvocato d'ufficio, c'è una differenza, presumo, anche nell'esito delle cause, quindi in ogni caso esiste il discorso economico, in questo caso... Grazie a Riccardo, dove andiamo? Alessandro da Pavia, buonasera. Sì, buonasera, ciao. Vada. Volevo essere solidale con, non mi ricordo più il nome, con Barbato. Sì, perché lui non deve essere da solo a prendersi le responsabilità, perché il governo Monti si sta solo facendo tagli a noi . E noi dobbiamo sapere perché fanno questi tagli, non solo per mantenere la cassa. E dunque? E dunque no, volevo esprimere la mia solidarietà. Ma solidarietà perché cosa? Non ha bisogno di avere solidarietà? Fini lo ha semplicemente rimproverato e lui si è scatenato dicendo non si può permettere, comunque non mi fermerà, eccetera. Ho del materiale su di lui, cioè, questo è uscito fuori da Barbato. Però lui non deve essere solo in questa battaglia con i nostri soldi. Ma che vuol dire lui? Ma che vuol dire? Ma scusi, ma se nella Camera non si può riprendere, lo vuole capire o no? Ci sono delle regole, alla Camera non si può riprendere, se uno riprende accetta che ci sono delle sanzioni, ma non mi pare una roba così eversiva, no? Quella che è successo, non lo facciamo sentire solo, dice il cittadino. E poi la Camera dovrebbero riprendere perché lavorano con i nostri soldi, eppure troppi. Ma ci sono delle regole, se lei va in carcere non può riprendere, e dice però il carcere è nostro perché lo paghiamo noi, ho capito, ma ci sono delle ragioni di sicurezza, delle ragioni anche di privacy, e però il carcere bisogna riprendere, ma ci sono delle regole nei posti civili e democratici, ci sono delle regole. Se le piace, poi lui l'ha fatto, si assume la responsabilità. Infatti, ma nessuno vuole metterlo in galera, peraltro. Infatti, io mi inalbero perché dico che lui non può poi adesso dire che ha delle cose su Fini e non può parlare, perché questo è un po' un ricatto. Sergio da Mantova, buonasera. Buonasera, Cruciani. Dica, allora, si tolga dalla viva voce, prenda la cornetta, perché altrimenti sentiamo un rimbombo. Ok, io volevo riflettere, va bene, va meglio adesso? Va benissimo. Ok, perfetto. Io volevo solo fare una riflessione con voi, perché sento costantemente parlare di equità, però mi trovo un'IVA aumentata e mi trovo ancora zone come Livigno, dove godono dell'IVA super avvantaggiata, se non addirittura esente in quanto zona franca. È possibile? Mi chiedo, dov'è l'equità con questa manovra? Sì, però adesso non è che il problema è Livigno, la zona franca, eccetera, eccetera. Abbia pazienza, cioè, Sergio. No, non è quello, ma questi segnali però sono quelli che ti fanno digerire maggiormente gli sforzi che vengono chiesti a te. Ho capito, ma il problema non è quello. In tutti i paesi esistono delle zone franche, esistono delle in tutti i paesi del mondo esistono questo tipo di situazioni qui. Non è per quello che siamo nella situazione in cui siamo, Sergio. Assolutamente e sì, allora? Non è per quello, un pizzico è anche per quello, però insomma dico in un momento ma lei di con tutto quello, con totale, tutto quello con tutto quello che, che c'è Livigno, nel mondo, in Livigno. Italia eccetera, pensa a Livigno, abbia pazienza, Sergio. Penso a Livigno, penso al Trentino Alto Adige, pensa al Trentino Alto Adige, ma d'accordo, ma insomma non è quello il punto, su dai, non è quella la cosa che è risolutiva, non è che se in Trentino Alto Adige pagano più tasse abbiamo risolto tutti i nostri problemi, non è così, c'è una situazione di equità, ma lì ci sono situazioni storiche anche particolari. Grazie Sergio. Giovanni D'Imperia, buonasera Giovanni. Buonasera, buon Natale a tutti. Volevo dire una cosa, che secondo me gli italiani non possono diventare dei tedeschi. Porto. Non ho capito, senti, scusi. Dicevo che gli italiani non possono diventare dei tedeschi, la nostra mentalità, la nostra struttura è diversa, cioè per l'evasione tutte queste ristrettezze ci fanno passare la voglia di lavorare, invece bisognerebbe combattere l'evasione in modo diverso, facendo prevenzione, cioè come fanno magari in Svizzera e in Austria, si concorda prima, invece di spendere tutti quei soldi a concordare dopo e discutere mi devi dare questo, mi devi dare quello, si concorda prima e poi si lascia libertà di non lavorare, se vuol lavorare 20 ore al giorno lavora 20 ore al giorno. No, non ho capito Giovanni, mi spieghi un attimo questo suo ragionamento meraviglioso. Allora dicevo, adesso c'è la lotta all'evasione e vanno praticamente a pescare tutta la gente che si presume che siano degli evasori, sprecano tanti soldi e tanto tempo per fare questo lavoro. Non sarebbe meglio fare prevenzione, prendere tutti i piccoli imprenditori, artigiani, tutti quelli che ci sono, concordare prima le tasse e poi lasciare che uno lavori, che abbia voglia di sbizzarrirsi come siamo. No, Giovanni, però noi mettiamo le cose un po' in ordine, che vuol dire riunire tutti gli imprenditori, gli artigiani eccetera? Non riesco a capire, un attimo Giovanni. Signor Razzi? Sì. Buonasera, Cruciani, la Zanzara, come sta? Parenzo, ciao. Bene. La disturbiamo? Perché dovevi stare male. No, per carità, ma noi le auguriamo sempre tutto il bene possibile e immaginabile. Ma so che le è arrivata una lettera con una polvere da sparo addirittura. No, purtroppo sì. Quelle sono le propagande che mi fanno. Cioè, mi spieghi un po', perché è una cosa incredibile, cioè è una cosa da chi è che vuole uccidere? Una cosa gravissima. In base alle pubblicità che mi fanno. Ah, lei dice ha ricevuto questa lettera in base alle cose che sono state dette su di lei? È chiaro. Ma che c'è in questa lettera? Scusi se... Ma in base a quello che è stato ripreso dentro la Camera dei Deputati da uno che mi considerava un fratello. Cioè il signor Barbato, no? Eh? Signor Barbato. Sì. Ma che c'è? La considerava un fratello, eravate fratelli una volta? Così diceva lui. E invece poi, ma questa storia delle riprese è incredibile, questa storia delle riprese, no? Vabbè, adesso andiamo avanti, vediamo. Ma lei vuole denunciare il signor Barbato? Ma quello è sicuro, non è che... Per cosa lo va bene, comunque devo andare, purtroppo ho qui gli amici che sono qui, vi auguro buon Natale. No, noi volevamo sapere sapere questa cosa della polvere da sparo, adesso a prescindere da questa cosa di Barbato. Sta la Digos di Pescara che sta facendo tutte le indagini possibili. Ma che c'era scritta nella lettera, scusi Razzi? C'è scritto nei comunicati c'è scritto, non lo so, adesso non mi ricordo. Che c'è, ho letto qualche cosa, traditore del popolo italiano, assetato di potere. Lo sapete, scritto nel comunicato. Non è che... Alleato dell'anticristo Berlusconi, mi sembra una cosa un po' di un pazzo, non è che... È delirante, dai. È delirante, non c'entra niente con le cose sue, quelle... Ma non lo so. Non lo sa. Adesso... Lei pensa che tutta questa campagna contro di lei abbia portato a questa cosa? Penso di sì, ha influito a mettere ancora più cattiveria le persone. Senta, mi permetta una semplice domanda, Razzi, poi davvero la lascio, lo sa che noi lo vogliamo bene qui alla Zanzara, ma quelle frasi che lei disse in quel filmato rubato tra virgolette da Barbato, no? A cosa si riferivano esattamente? ma niente, quello se sente tutto quello che si dice, tutti i parlamentari, uno si metterebbe le cose a quello, dentro in aula ognuno dice così scherzosamente, dice le cose, non è che sono cose ufficiali. Cioè, no, ufficiali no, ma sono cose... Sono così che si dice al bar cosa si dice? Si parla di Juve, Inter, Milan, e si dice anche che i giocatori, quello è venduto, quell'altro e quell'altro, e via di seguito. Beh, si possono dire anche delle verità, si possono dire... Sta succedendo anche oggi con i calciatori, no? Si parla del più e meno, e lì in aula si parla così, scherzosamente si fa anche le battute. Però per cui erano solo battute. Uno non penserebbe mai che uno... un collega, anzi un fratello, ti faccia diventa Caino, ma comunque va bene, buon Natale, buon Natale, buona scorta. Adesso vive con la scorta? Grazie. Vive con la scorta lei? Vive con la scorta? No, non più. Ma la chiederà? Okay, grazie, buon Natale, grazie. Felice Natale, signor Razzi, come Caino, signor Razzi. Sì, poi dispiace, succedono queste cose qui. Dispiace, certo. No, dispiace, chiaramente. Dispiace, la povera da spalla è un poveretto, un malato, un pazzo, un idiota. Vabbè, mi dispiace, perché quando la politica scende nell'agone della barbarie, Però hai sentito, no? Era un fratello, che... era un fratello il signor Barbato, era un fratello. Vabbè, ecco. Abbiamo l'interruzione per la pubblicità. No. Per la pubblicità, sì, torniamo. E adesso poi abbiamo grandi sorprese. Grandi sorprese? Abbiamo grandi sorprese, sì, te lo posso annunciare? A tra poco. Tra restate con torniamo? Noi. Due minuti. Due minuti e torniamo. 2-3 minuti, 800-24-0024. La zanzara, avete sentito la disfida Razzi Barbato. Era mio fratello, mi ha pugnalato alle spalle. Eccoci. Caro Cruciani. Sono le 20 in punto. Che c'è? Chi c'è? Voglio accanto a te? Avanti. Una delle più grandi esclusive dell'anno e con l'occasione, con l'intervista. Beh, adesso non esagerare, no, come al solito. Ma le solite cose tue. Voglio regalarti la dell'anno. Vabbè. E voglio lanciare un appello alla signora Marcegaglia nel ringraziarla per il rinnovo del contratto. Ma dai, falla finita, su. Sempre con le solite cose. Tanto non ci crede nessuno, allora, che sei fatto in così. Esclusiva. Va bene, in esclusiva. Avanti, sì. L'onorevole Letta, il vice Letta segretario. Letta chi? Quella, sì, l'unico onorevole che c'è, effettivamente. Sì, l'onorevole che c'è. L'onorevole Enrico Letta. Oh, benissimo. Che annuncia l'uscita dal governo tecnico. Ma no, perché uscita? Non è manco entrato a parlare, che ogni cosa che dirà la zanzara naturalmente verrà smentita dopo un secondo. Cioè, diciamo subito questo, così almeno chiariamo tutto. Ma mi dica che sarà un po' più buono. Ma io sono tutti, buono. Sono tutti preoccupati. Poi con questa storia di Bossi avete massacrato il mondo, dai. Bossi, beh, basta, ormai la storia di Bossi è finita, non possiamo più fare nessuno scherzo con Bossi, che lo capiscono tutti che ma è parente. Il prossimo tormentone quale sarà? Adesso abbiamo 15 giorni di vacanza per pensare a un tormentone. Andate in vacanza? Andiamo in vacanza per 15 giorni. La Marcegaglia, sì, mi manda in vacanza. Esatto, dica anche alla Marcegaglia di non mandarci in vacanza, così ci fa un bel... Ci ma fa non un è bel... che poi dopo trovate tutto chiuso, le porte serrate, articolo 18, tutto... No, magari fosse tolto l'articolo 18, signor Letta, magari. Ma se lo tolgono a voi, vi cacciano, poi siete finiti. Vabbè, è il mercato. A lei non piace il mercato? A lei non piace il mercato? Come no? Anche quello del lavoro, però, e non solo quella. C'è quello lì dell'ortofrutta la mattina. Dunque l'articolo 18 va bene così com'è, resta così, deve restare così com'è, giusto? Cruciani, tutto bene? Di che parliamo? Della Marcegaglia e di Radio 24? Ma di qualcosa? Come lo fa il Natale, Cruciani? Come lo fa il Natale? Beh, in famiglia come lei, immagino. Come lei. In famiglia? Sì, lei lo vede. E il Capodanno invece dove lo passa? Capodanno anche, in parte in famiglia. Cosa di in parte in famiglia? Uno passa 3 ore in famiglia e 3 ore. Ma scusi, ma adesso la persona, scusa, diciamo, famosa da intervistare, non è che sono io, è lei. Cioè, adesso noi invertiamo i ruoli. Cioè, lei invece. Beh, no, sono curioso. Di notizie, però, lei, stiamo dando un sacco di notizie. Il Capodanno invece lei dove lo passa? Natale e Capodanno, facciamo così, il Natale e il Capodanno di Enrico Letta. Natale e in famiglia Capodanno. Tutte e due insieme. Ma in Italia è una cosa sobria oppure come i calciatori alle Maldive da qualche parte? No, no, una cosa molto sobria nella bella città del mondo. E che sarebbe? Come che sarebbe? Roma. Cruciani. Io ho abbandonato Pisa, Roma. Pisa, io ho abbandonato. Pisa, la città più bella del mondo, lo dico salutando tutti i livornesi che ci stanno ascoltando. Bene, torniamo, tanto per tanto per inimicarsi qualche altro livornese da pisano. Però io anche voglio... i fiorentini, già che ci siamo. Senta, Letta, però mi dica una cosa, questo articolo 18 va bene così com'è, non bisogna toccarlo, me lo dica, così chiudiamo questa cosa dell'articolo 18, no? Poi blindiamo. Dobbiamo essere tutti più buoni su Cruciani. Appunto, appunto, siamo buonissimi, allora, Enrico Letta... L'ha detto il Presidente, l'ha sentito il Presidente della Repubblica l'altra sera. Il Presidente della Repubblica non è che entra nel merito di queste cose. No, il Presidente della Repubblica ha fatto un appello alla bontà. A tutti il Paese, a Cruciani. In particolare a quelli della Zanzara, anche le più buone. Ma noi siamo buonissimi, infatti sono domande talmente semplici che non è difficile rispondere, cioè la risposta dovrebbe essere l'articolo 18 in questo momento resta così com'è, non c'è nessun motivo per toccarlo, e lei ha già fatto una dichiarazione non, per nulla impegnativa, normale, serena, tranquilla, o no? Non si sente, Vabbè, ho capito, ma uno che cosa, uno cosa deve chiedere, lei vuole farsi le domande da solo, cioè la domanda è l'articolo 18, è, l'articolo 18 lo tocchiamo o no? Deve rimanere così com'è? È andato a fare il Brindisi, ti saluto moltissimo. Ma che vuol dire? Allora, io voglio dire questo, è stata una delle interviste, voglio dirlo. Ma è andato via? No, è andato a fare il Brindisi, ti saluta. Perché adesso potremmo mandare in diretta il Brindisi di Letta, forse. Forse è un po' di regime quello che facciamo, però il regime, in diretta il regime, il regime di Enrico Letta, benissimo, sì, noi sì, apprezziamo moltissimo, ci piace moltissimo. Che è successo? Piccolo Brindisi per gli amici. Beh, noi come dobbiamo continuare? Scusa, caro Parenzi, tu che sei stato l'organizzatore di questa cosa, noi qui come dovremmo proseguire secondo te alla Zanzara? Beh, io credo che sono uscite un sacco di notizie, ha detto che Pisa è la città più bella del mondo e questa è già una notizia che possiamo lanciare. Assolutamente. Ha detto che passerà il Natale in famiglia, io credo che possiamo essere soddisfatti della giornata politica e di quello che abbiamo parlato. Ti ringrazio. Grandi interviste di Parenzo. Ti ringrazio moltissimo di questa, di questa cosa. E direi di andare anche perché è il numero 2 del PD, cioè voglio dire, certo, ha dato delle notizie fondamentali, non c'è dubbio, però perché stare sempre lì a chiedere allora cucù, la Fornero, le lacrime, come vuole riformare le pensioni, ma chi se ne frega, cioè cominciamo a entrare nella vita delle persone, a raccontare questo, ma, no? Ma magari certo ci dica allora vuol dire qualcosa di piccante anche sulla... Vabbè, no, è stata un'ottima intervista secondo ma me è andato via per davvero, è andato via. Eh? È andato via sul serio? È andato di là, c'è questo incontro con gli amici di 360 e di Vedrò, quindi sono con i suoi collaboratori. Vabbè, è andato di là a mangiare il barattore. Se vuoi possiamo mandare in diretta. Succedono cose incredibili qui alla Zanzara. 800 24. Beh, però è una bella trasmissione che fai. Va bene, 800 24 00 24. Dove andiamo? Dove andiamo? Andiamo a Dino da Milano. Signor Sai Dino che mi da ha mandato Milano. Ai matti Barbato a me. Ma tu devi andare ai matti. Dino da Milano, dica. Mi è nervosito. Buonasera. Intanto volevo ringraziarvi per avermi accettato la telefonata. Ma noi accettiamo tutte le telefonate, difficile. Signor Dino. È un po' difficile per riuscire a parlare. Beh, quello perché c'è per fortuna gente che mi segue. Bravo, c'è molta gente. Lo dica forte, lo dica forte, caro no, Dino. No, me ne sono accorto. Niente, io volevo dire una cosa molto semplice. Sì. Diciamo che ne ho un po' piene le scatole di tutti questi politici. Però scusami Davide, qui la notizia in realtà c'è, la domanda e Letta se ne va, questo è il punto fondamentale, adesso guarda che torna in questo modo. Allora la domanda è, allora l'articolo 18 resta così com'è? Non voglio rispondere e via, questa la notizia è questa, diciamo la verità, cioè, non vuole rispondere alla domanda sull'articolo 18, o no? Parenzo? Beh, adesso non può rispondere. Pronto? Parenzo? Pronto? Sì. Ma che fai? Tu non sei mica Letta? Sono l'ufficio stampa, sono diventato dell'ufficio stampa, c'è un piccolo Dino. No, ma certo, no, però è interessante. Sì, Dino, avanti. Vuol dire stavo dicendo che un po' sono un po' deluso da tutti questi politici, nel senso che i signori, indipendentemente da quello che li paghiamo, che mi interessa relativamente, ma però so che li paghiamo molto bene, mi dà fastidio che un popolo di destra che ha votato un governo di destra e un popolo di sinistra che ha votato un'opposizione di sinistra, a un certo punto si è ritrovata con tutti questi signori bene d'accordo di mollare la patata bollente a qualcun altro, cioè non si sono presi nessuna responsabilità. Questo un po' mi dà fastidio, perché comunque chi ha dato il voto, indipendente l'abbia dato a destra o a sinistra, l'ha dato credendo in qualcosa. Adesso questi signori ci mettono in mano un governo tecnico facendoci credere che avrebbero risolto chissà che cosa, ma vediamo che un po' le dinamiche sono sempre le stesse, non è che è cambiato qualcosa allora in fondo. Ma secondo me è ora che questi benedetti politici capiscano che forse è il caso di cominciare a cambiare qualche regola. Basta essere attaccati all'articolo 18, alla Costituzione, a questo calcolato. Se le cose non funzionano, bisogna forse andare a fondo del problema, e se non funzionano così vuol dire che sono da cambiare, non bisogna stargli a girarci troppo intorno. Se poi ognuno cambiarle come? Oddio, ma mi scusi, il fisco, da 50 anni che sento parlare che ci sono gli evasori, il problema andando a cercare gli evasori non l'hanno ancora risolto, forse magari bisogna andare un po' a monte, forse bisogna cambiare il modo di far pagare le tasse alla gente. Cioè, io so solo che l'unico che le paga sicuramente è l'operaio, perché gliele tengono prima. Provate un sistema del genere, no? È inutile per qui. Grazie Dino, allora lei è d'accordo con Barbato, con quello che sta facendo Barbato? Filmare alla camera di nascosto per, come dire, per rivelare quelle che lui chiama le malefatte della casta. Però la casta è anche lui, vorrei dire. Comunque lui si sente strano alla casta. Ma io non voglio, guardi, non c'è da salvare nessuno. Fa bene o no, signor Barbato? Fa bene o no, il signore Barbato? Ma oddio, se vede che c'è qualcuno che si comporta male, fa bene a dire. Va bene, ma io lo so che la maggior parte degli ascoltatori, caro Parenzo, mentre noi siamo scettici, io un po' meno, tu decisamente scettico, capisci? Scusami, Cruciani, veramente ti voglio tanto bene e ti abbraccio forte anche a te. Però il ragionamento che io ho provato a fare è un altro. Lui si inalbera perché è stato sanzionato. Ho capito. Ma poi ci sono delle regole, scusami. Se tu vai per strada e decidi di sputare in faccia a uno, questo verosimilmente si arrabbia se tu gli sputi in faccia, no? Perché ci sono delle regole civili, dice lì non si può riprendere. Uno non si può lamentare e dire siccome quelli sono tutti ladri, io li riprendo e documento. Cioè non è un ragionamento che funziona, cioè non è infrangendo la legge per nobili motivi che la cosa è positiva, cioè non è che sta facendo la legge adesso infrangendo la legge. Se avessi infranto la legge sarebbe già iniziato un regolamento parlamentare. Sì, ho capito, però voglio dire, il problema è dei rapporti tra i deputati. Cioè chiaramente ci dovrebbe essere in teoria un gentleman agreement tra i deputati, per cui uno non è che fotte l'altro con delle riprese nascoste. Questo mi pare evidente, altrimenti davvero ne potremmo sentire e vedere di tutti i colori. Noi ci divertiamo come un pazzo, come pazzi, ed è il motivo per cui io in parte appoggio Barbato, perché in fondo se uno poi si fa fottere, si fa fottere. Se uno va con una telecamerina, sì, anche questo è vero, come fa ad accorgersi? Come fa a saperlo? Lì sono Sergio da Pistoia, buonasera Sergio. Barbato sì o no? Questo è il tema della serata. Barbato sì, Barbato no. Anche a Parenzo, Sì, e beh, per forza anche a Parenzo, che vuole fare? Non gli vuole fare gli auguri? No, senz'altro, sì. È anche molto simpatico. No, io volevo appunto allacciarmi al discorso che state facendo ora, no, su Barbato. Credo che lui, bene o male, io quello che fa non lo so, però c'è una cosa che è importante, che sentendo in giro la gente nei bar, ha l'opinione pubblica dalla sua parte, quindi secondo me deve andare avanti, deve continuare, perché sicuramente l'opinione pubblica è contenta di queste cose. Guardi, io non sono uno che vota quella parte di Pietro. Avanti Barbato, dice lei. Avanti, sì, Barbato. Avanti Barbato, perché da quello che sento io, sì, e anche per quello che mi riguarda, lui ha l'opinione pubblica della sua parte, ha capito? Adesso l'opinione pubblica, la gente, il popolo, la plebe ha trovato un nuovo Masaniello, ha trovato un nuovo Parenzo, ha trovato... Diciamo di sì. Ma lo capisco. La gente è stufa, ha capito? Che dici Parenzo? Peggio mi sento, cioè se uno diventa famoso perché con una telecamerina nascosta va tra... C'è un arruffapopolo, viva gli arruffapopolo, direbbe il sindaco di Bari Emiliano, non ho detto io, direbbe il sindaco di Bari Emiliano. Arruffapopolo è una cosa, e diventa eroe, capito? Cioè diventa eroe uno che gira con una telecamerina dentro la camera e riprende i suoi colleghi, vabbè, se vi piace così a te, Cruciani, a tutti quelli che... Se vi piace così e continuate così. Poi, perché quali sono gli scandali? Cioè cos'è che è stato documentato di così scandaloso? Sono questi i problemi dell'Italia? Sì, anche questi probabilmente. Vabbè, adesso non fare lo schizzinoso, fai lo schizzinoso, fai quello TikTok, il regolamento della Camera, e picche TikTok è quello, e la reprimenda di fine, la diffida, fai quello così. Sei di solito sei su queste cose qui, sei tremendo su questo invece. Ma io mi rotolo nudo nel fango con te ogni giorno. Nudo, tutto. Mi vabbè, sentiamo la pubblicità. Pubblicità. Bene, 2013 800 24 0024 la zanzara, barbato, che è successo? Questo barbato è un criminale, lo ridico, è un criminale, cioè fa politica, riprende. No, veramente fino adesso non l'avevi detto comunque. Ma adesso te lo dico io, ma c'è un'altra persona che forse lo può sostenere, che chi è un criminale, che è un criminale, chi è? Che è la nostra, l'onorevole De Micheli. Oh, buonasera! Che è aspetta che metto la mia bocca. Però puoi dire al signore Rigoletta che ha un credito nei nostri confronti? Il signore Rigoletta un debito nei nostri confronti. Sì, ma adesso è andato a parlare con tutti i suoi più stretti collaboratori. Beh, ho capito, ma che vuol dire? Non è che può fare bubù qua, apparire però come bubù. No, voglio dire, la notizia ce l'ha data, te l'ho detto, Forza Pisa, basso Livorno. Io la manderei alle agenzie comunque. Sì, questa, io direi che possiamo mandarla tranquillamente alle agenzie, sì, perché no? Va bene. Allora, c'è l'onorevole De Micheli che è vestita tutta di rosso. Beh, molto attraente, come al solito. Molto attraente. Vabbè, adesso perché devi sempre fare apprezzamenti sulle donne. No, io ho detto molto attraente, come al solito, non ho detto. Incazzata nera con barbato. Sì. Ma veramente... Bene, diamo il benvenuto alla zanzara a Paola De Micheli, Partito Democratico. Pronto? Buonasera. Buonasera, Cruciani, come sta? Come sta? Sempre bella, lei mi ha detto, Parenzo. Sempre... insomma, diciamo, cerchiamo di organizzarci, come sempre. Eh beh, sempre la corsetta, puntuale, sì, cerca di tenersi in forma. Regolare. Diciamo che stiamo organizzando anche la Maratona di Londra, preolimpica. Addirittura. Voglio vedere se ha la forza di venire con noi. Beh, guardi che mi sta tentando. Potrei anche sfidarla, Cruciani, lei è magretto, ma potrei anche sfidarla. Guardi che mi sta tentando con questa cosa della Maratona di Londra insieme ai parlamentari, però non voglio poi... No, questa volta no, non vado via con i parlamentari quest'anno a Londra, vado con i miei amici di Milano e di Piacenza. Viva Piacenza! Beh, potrebbe attirarmi la cosa. Senta, ma ha saputo questa cosa di Barbato? Ma mi ha aggiornato, come sempre, il dottor Parenzo, che è sempre molto puntuale nei suoi report. Beh, diciamo, puntuale, insomma, comunque, se lo dice lei, comunque. No, siccome Barbato aveva già fatto un'uscita molto strampalata in una delle prime sedute della Commissione Bilancio e Finanze riunite sulla manovra, contro colleghi parlamentari che lui aveva accusato di utilizzare risorse della Camera per fare svariate cose private. Sì. E noi ci siamo molto arrabbiati in quella seduta della commissione. Ma come lo definirebbe? Come lo definirebbe lei, Barbato? Un arruffapopolo, un demagogo, un Masaniello dei miei stivali? Come lo definirebbe? Uno che non fa quello che deve fare. Vabbè, ho capito, quello, deve faticare, come si dice dalle parti sue. Cioè deve studiare. Deve mettersi a fare le leggi, a seguire la finanziaria, le manovre, le robe sulle tasse, visto che sta in commissione finanza, e non continuare a fare dei filmati segreti su delle cose che nemmeno lui sa che cosa sono e che cosa vogliono dire. Anche perché non è che se lui si piglia il peggio di quello che c'è in giro, poi la gente lo valorizza come il meglio. Cioè, sì, le persone poi equiparano inevitabilmente tutto a quello che lui rappresenta. C'è un danno anche per lui. Ma no, ma certo, ma dentro al Parlamento ci sono delle persone serissime che lavorano per davvero e che amano. Scusi, amano, ma cos'è che le dà fastidio di questa cosa di Barbato? Lei ha paura di essere pizzicata, magari a parlare liberamente di qualcosa che no, lui possa dire? No, io so, non ho niente da nascondere, possono pizzicarmi quando vogliono, io non ho mica niente da nascondere. Al massimo mi può scappare qualche parolaccia perché sa, a volte sono. Ma è il metodo che non le piace? Sì, questo lo so, ma è il metodo che non le piace? Certo. Cioè, non si può andare in Parlamento a filmare i colloqui. Lei che è un uomo intelligente, un po' di destra, ma intelligente. No, io non sono di destra, comunque. Non è di destra, come sono sbagliata. Io... Mi dica, dove vuole arrivare Barbato? Lei più cosa di destra vuole di dimostrare? E che ne so, che qualcuno fa il mariolo. Che le istituzioni fanno schifo? Beh, non ci riuscirà. Non ci riuscirà, perché anche se dentro alle istituzioni, come in tutti i luoghi di questo paese e del mondo, ci possono essere persone non idonee a ricoprire quell'incarico, ma dentro alle istituzioni, io parlo per quella nella quale sto. Ma lei cosa farebbe? Ci sono delle brave persone. Lei cosa farebbe al signor Barbato? Oltre a quello che ha fatto Fini, che è una sorta di rimprovero, chiamiamolo così, insomma, di diffida a non fare più le riprese, gli darebbe una punizione esemplare, denaro di... non lo so, come lo punirebbe? Gli tolgo il saluto. Lei lo sa che nella nostra cultura contadina togliere il saluto a una persona è la cosa più umiliante. Cioè, se lei passa davanti Barbato, proprio non se lo fila. Esatto. Vabbè. Questo. Abbiamo nella traffico, nostra cultura, questa è la cosa peggiore che si possa fare a una persona. Sa, io le ripeto, vengo dalla campagna, noi siamo fatti in questo modo qua. eccoci, 20 19 800 24 00 24. Stanno arrivando, caro Parenzo, molti messaggi anche contro di te per le tue posizioni contro Barbato, quando violavano, contro di me, quando violavano la privacy del quando violavano la privacy del Berlusca godevi come un riccio. Ancora, se Barbato l'avesse fatto nei confronti di Berlusconi, Parenzo, non sarebbe così per... Su Berlusconi non è stata violata nessuna privacy. Beh, insomma, c'è un'inchiesta giudiziaria, c'è da discutere su questo, su Berlusconi non è stata violata nessuna privacy, no, ma in generale privacy. No, a parte le inchieste, no, se ci fosse stato Berlusconi di mezzo a dire con una telecamerina rubata qualche cosa, tu avresti goduto come un riccio. Ma io sto avrei goduto pure io, peraltro. Io godo sempre, peraltro, ma voglio dire che c'è una differenza sostanziale di metodo, cioè qui stiamo discutendo di un signore che si lamenta perché è stato ripreso dal presidente Fini . E ha detto, io sto al punto della notizia di oggi che questa trasmissione ha partorito, e la notizia è che il signor Barbato ha detto, a fronte del richiamo, dice usciranno altri filmati anche sul presidente Fini. Io contesto il metodo contesto, no, non il resto. Ecco, come si chiama questo a casa tua? Ricatto. Sì, se uno dei filmati li deve pubblicare su, dice cos'è, a puntate, cos'è, beautiful? È beautiful, no, effettivamente la minaccia, signora De Micheli, anche lei si esprima su questo, dire ho dei filmati, la anche su Fini, è andata via pure lei, no, è qua, non è che è andata via, cioè è qua, poi è andata, è aspetta che mi avvicino alla sua bocca, aspetta un attimo, ecco qua. Effettivamente è uscita anche l'ANSA in questo momento, ho dei filmati che riguardano Fini, la sua attività da parlamentare, dunque ho letto la diffida e mi sono fatto una grande risata. Fini non mi può giudicare perché ho del materiale anche su di lui. Questo, insomma, assomiglia un po' al ricatto nei confronti del presidente Fini. Effettivamente sì. Sa qual è la cosa che mi turba di più? È il fatto che non abbia nient'altro da dire che continuare a parlare male delle persone che lavorano con lui. Vabbè, ma comunque le persone che ascoltano la vostra bellissima trasmissione radiofonica sono persone che lavorano nelle aziende, nelle cose, e sanno perfettamente che non è che nel trattare male, nel parlare male del proprio vicino di scrivania, di posto del posto di lavoro, così ne guadagna l'azienda, non ne guadagna nessuno. Però scusi, signora De Micheli, non c'è proprio niente da dire, ma mi dicesse cosa pensa della rivoluzione fiscale che è in atto, mi dicesse cosa pensa della delle pensioni, mi dicesse... Vabbè, ognuno al suo, ognuno si occupa delle cose di cui si vuole occupare, questo non è censurabile. Se c'è di un cazzo. Mamma mia, siete alleati in questa cosa qua. Però perché la maggior parte degli ascoltatori ci scrivono e sono invece, questa è una cosa interessante da analizzare, e sono entusiasti dell'idea che ci sia un deputato che va dentro la camera, prende la telecamera e sputtana gli altri. Perché tutti quanti sono dalla parte sua? Chi è che garantisce che le cose che lui registra non siano manipolate? No, quello nessuno, certamente. Chi è che lo garantisce? No, perché sa, se vuole io posso dire a tutto il mondo che sono alta 1,80, sono bionda. Vabbè, adesso e ho la manipolazione, in nazionale pallavolo. La manipolazione mi sembra strana. Non può arrivare a questo punto e lei dice cruciale. No. Senta, posso anche farmi tingere. Allora, capelli, Paolo De Micheli, Partito Democratico, però tra due donne come la Camusso e la Fornero, a parte se è tutto calmato perché c'è grande ipocrisia in giro, nessuno ha il coraggio di andare fino in fondo, lei con, insomma, sto articolo 18 va cambiato o no? Cruciani, guardi, si fidi di una che un pochettino di imprese non le serve, conosce. È un falso problema. Ma no, cioè, sono 8 milioni di lavoratori che non sono soggetti all'articolo 18, il 95 delle imprese. D'accordo, ma va cambiato o no? No, in questo momento non servirebbe niente. Non servirebbe niente. In qualunque modo si volesse intervenire in questo momento, non servirebbe niente. Se me lasci perdere in questo momento, in teoria si dovrebbe cambiare o no? Beh, in una condizione di massima espansione dell'economia, ma non è questo, si potrebbe migliorare. Si potrebbe, cioè, fino a 30, migliorare. Per esempio, fino a 30 dipendenti? Una cosa del genere? No, si potrebbe migliorare allargandole le tutele, non riducendole. Come allargandole? Cioè, licenziabilità, cioè eliminando addirittura la cosa dei 15? No, ci sono dei modelli di flex security, che non sono solo quelli di Chino, ma anche altri che sono applicati in giro per l'Europa, esempio, che allargherebbero le tutele dell'articolo 18, non le ridurrebbero, Cruciani. La superficialità con la quale si è approcciata questa vicenda è una cosa della quale adesso non ci occupiamo più, perché, come giustamente dice lei, non è più un argomento di attualità, ecco. Abbiamo altre cose sul mercato del lavoro. Lei lo sa che ci sono 40 contratti, 40 tipologie di contratti. Lo so. Interveniamo su quelli e cominciamo a razionalizzarli, a renderli più efficienti. Comunque non è di attualità questa roba. L'articolo 18 non è di attualità. Ma non è... gioco della torre, Camusso o Fornero? Chi butta? Allora, butto la Camusso e tengo la Fornero, perché la Fornero non la conosco, quindi faccio un giro sulla torre per incontrarla e bere un bicchiere di vino con lei. L'ha già detto. butta la camussa e tiene la Fornero, no? E vado a bere un bicchiere di vino con la Fornero per fare chiacchiere, mica non la conosco. Cruciani, io non la conosco. Ho capito, però le cose che dice, le cose non è la che la camussa invece la vedo sempre in aeroporto, così chiacchieriamo sempre. Vedi, non piatto all'aeroporto. All'aeroporto, sì. Non vai in piazza con la camussa. Io tendenzialmente vado in piazza con giudizio. Con giudizio, con giudizio, nel rispetto dell'autonomia del sindacato. Così il sindacato può fare quello che ritiene giusto e la politica fa quello che formule Cruciani le adora. Io queste formule prendo, come diceva una volta il mai dimenticato, per fortuna anzi dimenticato, Goebbels, volevo dire, quando sento Cruciani, questa citazione non ci sta. Quando sento parlare di cultura, diceva prendo la pistola, prendo la pistola, la stessa cosa. Allora, ammetto che questa citazione non è pertinente, Cruciani, il mio affetto per lei però non è pertinente. Al netto di questo, parlare della De Michele e della cultura, possiamo parlare di cultura economica. Era la umilmente. Scusi un attimo, tra invece il signor Fassina, e la signora Fornero, lei chi sceglie? Chi butta giù? No, io sto sempre con i maschietti, dalla parte dei maschietti. Ma che vuol dire sempre dalla parte dei maschietti? Perché sono sesso debole, poveretti, non li vede come sono ridotti. Tutte le cose più importanti di questo paese in questo momento passano per le mani delle donne. Vabbè, ma insomma, tra Fassina e Fornero chi butta giù? Riducendo male. Devo buttare giù la Fornero perché Fassina è così timido, lo teniamo sulla torre. Vabbè, ho capito, lei vuole giocare. Ma chi è? Risposta paragura. Scusi. Gioco io perché gioca lei, no? Ma le cose economiche del Partito Democratico le decide ancora Fassina oppure no? Vabbè, Fassina è il punto di è un punto, è un luogo. Diciamo che ringraziando Dio nel Partito Democratico si discute tanto di economia. Si discute, cioè non c'è. Poi si trovano delle mediazioni. Non c'è Fassino, solo lui che Fassino. Allora, visto che mi mettete delle gradazioni di importanza, sempre con i sindaci, sempre con i sindaci. Però questa assessore al bilancio Cruciani, lo so cosa vuol dire star vicino alle persone tutti i giorni che hanno i problemi. Guardi, creda che fare sindaco è veramente complicato. Scusi, ma chi è il più bello del Partito Democratico? Il più bello del Partito Democratico è Francesco Boccia. Manco sempre sto Boccia, mamma mia, che noia. È molto carino anche quel parlamentare. Ma è uno dei radicali che lavora anche con lei, uno vicino alla sua posizione. L'altro, quello dei radicali è molto carino. Non mi viene in mente il turco. No, non è Maurizio. No, turco, che turco, carino. Sì, turco. Non mi viene in mente il nome. Perché è brutto turco? No, ho detto che è brutto turco. Cruciani dice che è Maurizio Turco, è brutto. Ma non ho detto questo. Che andava sulla piazza di Hanoi, Maurizio Turco. Com'è che faceva? Marco Pannella, buonasera, come sta? Pannella. Noi radicali, liberali, liberisti, libertari abbiamo detto che a Pyongyang è un regime e voi vi occupate di pensioni, camusso, occupatevi dei diritti umani dei Falun Gong. Ma come Falun Gong? Cosa c'entrano i Falun Gong adesso? I Falun Gong sono una grande battaglia radicale, lanciamo un satyagraha. Un grande satyagraha. Ma adesso che c'è ogni volta un satyagraha per qualsiasi cosa, non capisco io, vabbè. Comunque, vabbè. Grazie a Marco Pannella. Volevo sapere qualcosa su Maurizio Turco, su Hanoi, lei non me l'ha più un racconto. Perché mentre lei sventolava la bandiera della pace con Agnoletto, Maurizio Turco era nella piazza di Hanoi a sventolare la bandiera americana e gridare libertà, libertà, libertà. E sapete com'è finita? Che lo hanno arrestato nel silenzio dei media, di registri, ma Radio 24, che è andato Pasolini, Ciociano Masi. Che è andato a fare ad Hanoi? È andato a rivendicare i diritti umani, i diritti civili con i Falun Gong. Va bene, grazie a Marco Pannella in diretta da Via di Torre Argentina. Insomma, tra Enrico Letta e Fassina chi butta giù dalla torre? Enrico Letta è... Questo è facile, il suo guru, è il massimo. Ecco, che potrebbe fare nella vita Enrico Letta, il Presidente della Repubblica? Tutto, Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio. Non penso che ci sia un lavoro precluso a uno come Enrico Letta. No. Ecco, per lei tipo, mi sembra però di sentire dalle sue parole uno che parla di Berlusconi, cioè un berlusconiano che parla di Berlusconi, cioè lei ha lo stesso tipo di approccio con Enrico Letta, che ne so, che Bondi ha con Berlusconi. No, attenzione. Lei è il Sandro Bondi di Enrico Letta. io faccio parte di un, diciamo così, di quei pochi che si permettono anche nei confronti dell'onorevoletto di avere anche un po' di un atteggiamento critico. Poche critiche, non riesco ad andare, insomma, ad essere diversa da quello che sono. Lei è il Sandro Bondi di Rigoletto. Non sono Sandro Bondi, no! Lei è il Sandro Bondi. Sandro Bondi a Berlusconi non glielo diceva mai che sbagliava. Sì. Io ogni tanto Enrico gli dico: guarda che sta non bere troppo, no. Vai piano con la macchina. Metta, non beve e guida molto piano. Lei è il Sandro Bondi, ecco, non beve, vedi, ha detto siamo a regime. Siamo a regime. Però Letta balla, Cruciani, lei dovrebbe vedere l'onorevole Letta ballare. Lei è il Sandro Bondi di Enrico Letta, diciamo la verità. Sì. Me lo saluti, senatore Bondi, che non lo vediamo più adesso alla Camera, ci manca da morire. Lo so, ma è depresso, mi sa. È un po' depresso. Tra qualche minuto su Radio 24 i discorsi di Enrico Letta. No, non è vero. Tra qualche minuto su Radio 24. Bene, grazie a Paolo De Micheli, pubblicità borsa. Buonasera, grazie. Bene, buon Natale. Grazie. Bene, siamo qui. Vogliamo dire qualcosa su quello che accade in Sicilia, caro Parenzo? Beh, in Sicilia ti dico solo qualcosa. Questa sera l'editoriale sulla Sicilia alle 20:34 qui alla Zanzara, mentre ci sono ancora tantissime persone che in macchina, come dici tu, a casa oppure in qualche... oppure nelle corsie degli ospedali psichiatrici, come accade al signor Sai, ad esempio. Ci sono tante persone che ci seguono da diversi luoghi, chi esatto. dall'ospedale psichiatrico. E allora casa, a tutte queste persone voglio dire una cosa: basta con questi sprechi in Sicilia, si colpisca anche lì togliendo i trasferimenti, togliere l'acqua ai pesci marci. Ogni cittadino dell'isola spende 5 volte più dei lombardi. L'Assemblea regionale siciliana pesa 33 euro l'anno per una spesa di 167 milioni. I lombardi pagano solo 6,6 euro a testa. I piemontesi 15, 33 euro. L'ARS dovrebbe ardere, l'ARS, ardere. E continuo, Parenzo, se vuoi, continuo. E perché Lombardo non ci risponde? Prova a chiamarlo in diretta, signor Lombardo, che ci spiega come mai. Chiamiamolo, signor Lombardo. L'Assemblea regionale siciliana costa ogni contribuente 5 volte il Consiglio regionale lombardo e più del doppio di quello laziale e piemontese. E i servizi offerti? 5 volte la Sicilia rispetto alla Lombardia. I servizi offerti? Ma questo lascia perdere, questo non lo so. I numeri di un raffronto che incornicia privilegi antichi e resistenti ai tagli figli della crisi. Sto leggendo un articolo uscito su Repubblica, ma non c'è solo questo. Il signor Lombardo è il governatore più pagato d'Italia, con 15.000 euro netti. Non c'è dell'altro. Nel 2012, stai attento a quello che ti dico, la famosa buvette dell'ARS graverà sulle casse per 925.000 euro. 77.000 euro al mese. Poi capisci, dopo i leghisti hanno fatto le spese di rappresentanza pesano sul bilancio di Palazzo dei Normanni per 342.000 euro, oltre 10 volte più della Puglia, 26.000 euro, e 30 volte di più della virtuosa Emilia Romagna. Uno dirà: regione a statuto speciale, sì, però speciale per i soldi che sprecano. Regione Sicilia a statuto speciale, aperta parentesi, speciale per i soldi che buttano dal cesso. Questo bisognerebbe aggiungere. Franco da Roma, buonasera. Sì, no, di passaggio da Roma, perché io lavoro in tutta Italia e sto qui soltanto per un breve periodo. Prego, vabbè, non si vergogni di chiamare da Roma, no, però. No, in questo momento sto lavorando. Allora, prendo una pausa per dire che ho risolto i miei problemi stamattina chiudendo i miei conti correnti e facendo dirottare tutto sotto materassi. In che senso, scusi, facendo dirottare tutto sotto materassi? Non ho capito. Nel senso che i soldi non stanno più in banca, perché per i prossimi 30-40 anni dobbiamo pagare, perché siamo diventati tutti debitori carichi di colpe, compresi i nostri figli e anche i nipoti, e quindi il motivo per impedire, come voi volete impedire a Barbato di spiare gli altri. Ma io non voglio impedire a nessuno di spiare, abbia pazienza, si rivolga a Parenzo. A me rompe che qualcuno spii dentro i miei conti correnti, come a lei romperebbe che qualcuno spii dentro la sua agenda. Io, se qualcuno le dicesse pubblicamente dov'è che passerà lei il 26 e il 27 di dicembre, magari le darebbe fastidio. A me dà fastidio che qualcuno ficchi il naso nei miei conti correnti. Quindi ho chiuso, basta, farò il mio lavoro. Quando mi chiamano, io ho lavoro, pensi, per i prossimi 8 mesi assicurati. nel senso che da tutta Italia mi chiamano, quando mi chiamano dico: tu che fai? Che produci? Che sai fare? Perfetto, mi pagherai all'istante la mia prestazione con dei beni, servizi che tu sai fare. Non ci sarà nessuna operazione tracciabile, quindi io me ne tornerò con la macchina, con le scarpe per i miei figli o con i costumi. Però scusi Franco, abbia pazienza, mi sembra una reazione un tantinello esagerata rispetto a a quello che accade, perché è vero che sono aumentati i controlli all'interno all'interno dei nostri conti, le possibilità della tracciabilità e tutto questo va benissimo. Detto questo, addirittura togliere i soldi dalla banca per metterli sotto il materasso, come dice lei, poi insomma è difficile campare senza l'elettronico ormai, senza la... Mi scusi Cruciani, ma lei c'ha qualche interesse o parente in banca che da di sempre? Ma non ho nessun parente in banca, qual è il problema? Scusi, come si fa a vivere senza un conto corrente? No, ma ancora lo devo capire, se lei ci riesce, bravo, cioè, tanto di cappello, insomma. Sì, no, ci provo a difendermi, perché oramai diciamo il prelievo è talmente esoso, per cui non si può andare avanti così. Naturalmente nel momento in cui la riforma fiscale riuscirà a intercettare grandi evasori, deciderò di riaprire i conti. Lei dice, finché non vedo i grandi evasori, che poi ogni tanto vengono presi, non è... Sì, però presi quando oramai i fondi non ci sono più, perché di fatto 100, tutti quelli che riescono a intercettare, si recupera solo il 20%. Questo non viene detto, nel senso che la Guardia di Finanza fa un'operazione. È vero, poi viene recuperato solo una parte di quello che viene detto. Quindi, grazie Franco, grazie. Intanto alla buvette della Camera e del Senato, anzi, c'è stato un incontro scontro, chiamiamolo così, piuttosto interessante tra il ministro Giarda, il ministro Piero Giarda, ministro dei rapporti al Parlamento, e Federico Bricolo, che abbiamo sentito prima, no? All'opera con le sue dichiarazioni. Tra l'altro vorrei far sentire ancora qualcosa del signor Bricolo, quando si rivolge a Monti dicendo: lei ha la colf, le operaie invece devono lavare e stirare, come se avere la colf sia una... Non so se si rivolge a... Ma comunque a chi? A Fornero? Alla Fornero, sentiamo. Come fosse un crimine. Ministro Fornero, lei di soldi ne guadagna a sufficienza per permettersi colf, badanti, personale di servizio vario. Ma un'operaia che lavora in una fabbrica, quando va a casa, deve cucinare, deve fare le lavatrici, deve pulire i pavimenti, deve accudire i nipoti e magari anche i genitori anziani a carico. E siccome queste cose lei le sa, perché è una vita che le studia, oltre a piangere, poteva far sua la nostra proposta sulla patrimoniale, che da sola sarebbe valsa l'intera riforma delle pensioni. Bene, questo era Bricolo. Vi dicevo di quello che è successo in Parlamento, al Senato. Lei è troppo giovane, si deve acculturare, dice Giarda Bricolo. Io già nel 95 avevo lavorato ad un capitolo sul federalismo fiscale, poi mi è scomparsa la pagina, adesso la recupero. Raffaele da Brindisi, buonasera. Sì, buonasera, dottor Cruciani. Insomma, lei è giovane, si deve acculturare. Io sul federalismo fiscale, questa era la sostanza, ci lavoro fin dal 95, lei ancora non sa nulla del federalismo fiscale. Vabbè. Allora. Vada. Per dire? Sì. Niente, io ho ascoltato la politica che lei ha intervistato qualche minuto fa prima della pubblicità. Sì. Che ha detto che per lei non c'era nessun problema, era trasparente come l'acqua e potevano riprenderla in qualsiasi momento. Sì, io già nel 95 avevo lavorato a un capitolo sul federalismo fiscale che vale due volte quello che ha fatto il vostro Calderoli, che ne ha combinata una più di Bertoldo. Lezione di federalismo fiscale di Giarda al signor Bricolo. Vabbè. Allora, posso continuare? Sì. Allora, io dico le parolacce che le potrebbero scappare a un politico. Noi le perdoneremmo sicuramente, perché quello che ci interessa a noi sono le paroline, quelle che vengono dette dietro le quinte, che ci poi complicano i conti in tasca a noi contribuenti, perché tutto quello che stanno combinando, quello che si sente fuori, certo non abbiamo, non la vediamo con giusto, diciamo, questi politici sono tutti, non lo so, è diventato una marmaglia che ognuno pensa a sé, chi più farà fare. Come possiamo avere più fiducia di questi politici? Allora, detta questa cosa demagogica, poi? Demagogica sì, ma è la realtà, non è demagogia. Vabbè, poi? Perché niente, se loro lo stanno facendo i politici, non gliel'ha detto il dottore di farlo, e se sono dei politici devono essere trasparenti al massimo, devono sopportare tutte le intercettazioni telefoniche possibili e immaginabili, perché noi vogliamo sapere che cosa combinano dalla mattina alla sera. Sì, ma non solo, in questo caso non stiamo parlando nemmeno di intercettazioni, di filmati, di filmati in aula. E anche essere ripresi, perché benissimo, ma mi sembra di capire, si stanno lavorando per noi, mi sembra di capire, Parenzo, che sono tutti dalla parte del signor Barbato, tutti. Vabbè, ma Nino da Messina, buonasera Nino. Buonasera Nino. Cruciani, buonasera. Vada. Buonasera a lei, le do del lei al suo simpatico giullare Parenzo, molto simpatico. Senta, intanto amico mio, la parola giullare che lei usa in termini dispregiativo a me, voglio dire, non mi tange. Dopodiché, detto con tutto il rispetto, me ne fotto del suo giudizio, detto con tutto il rispetto. Vabbè, comunque. Parenzo, ma guarda che tu non sei nessuno, quindi io quello che posso intanto dire... Intanto mi dia del lei, perché non abbiamo mai mangiato una pizza insieme e mai avverrà. Primo. Parenzo, lei è il rappresentante, il prototipo classico di quella sinistra, comics chic, per cui Berlusconi... Che comics? Comic City, sì, Cruciani, se la noti. Per cui Comics Chic, per cui Berlusconi sarebbe potuto stare altri 20 anni a governare tranquillamente. Cruciani, chiederei una cortesia, quando mi concedate me lo dica, non mi tagli la conversazione, non voglio monopolizzare. Guardi che io non taglio la conversazione a nessuno. Mi perdoni, è successo qualche volta, non se l'abbia a male. Volevo intervenire dicendo sentiamo il ragionamento. È indignato profondamente per quello che poco fa avete detto riguardo la regione Sicilia. Guardi, io ero nel direttivo dell'Italia dei Valori con Mimmo Scilipoti, se ricorda, a Messina. Quindi conosco Mimmo Scilipoti, purtroppo altri onorevoli, quindi la situazione politica qua è veramente disastrosa. Al di là di questo, signor Mimmo Scilipoti, quanto lo conosce lei? Guarda, con Scilipoti abbiamo fatto la campagna elettorale del 2001, poi ero nel direttivo dell'Italia dei Valori provinciale, e quindi lo conosco diciamo abbastanza bene, ecco, non proprio intimamente, ma c'era una. Ma ha seguito il suo percorso anche lei? Guardi, le posso dire, Cruciani, parlando seriamente, che Scilipoti era ed è tuttora un personaggio molto ma molto attivo. Molti convegni, sull'attività e sui convegni di Scilipoti nessuno ha dubbi. Molti più però dal versante, come dire, medico, scientifico, sulle sue passioni, più che del politico. Sì. Io però debbo annotarle, se mi consente, una volta eravamo in una di queste conferenze, di questo direttivo, disse, sai, io sono un aderente, diciamo, uno che ha aderito in maniera ideale, disse, Mimmo, sai, noi dovremmo attivarci come Italia dei Valori, a parlare con la gente, con le associazioni anti-racket, a parlare di questa grande piaga che diciamo lo sviluppo, che è il pizzico. Che è il pizzo, come se ne è venuto fuori. Come se ne è venuto fuori? A me in maniera privata. Sì, come? Ho anche scritto in una lettera, in una sezione pubblica. Ma cosa si mette? Per favore, cosa si mette queste cose? Tradotto, ha capito. Per favore, chi si mette con queste cose? Che vuol per dire? Per carità, chi è che si mette con queste cose? Cioè, non si voleva impicciare nelle storie che riguardano il pizzo? Questo dà, diciamo, tutto un po' di, come dire, dà un po' l'idea del tipo di personaggio, che poi fosse attivo sì, ma per fini che erano palesemente, questo lo chiamavamo, ambiziosi. Lui voleva a tutti i costi arrivare a Montecitorio o all'altro palazzo, come si chiama, Palazzo Madama. Vabbè, Nino, ci ha chiamato per parlare di Scilipoti? No, io volevo dire che mi ha veramente divertito poco fa il siparietto tra la sua spalla, il signor Parenzo, e lei sul caso di Barbato, no? Perché sembrava veramente una cosa divertente, perché vi eravate controposte, come dire, ideologicamente le parti. Cioè, lui che accusa Barbato di scorrettezza e lei che alla fine lo difende. Volevo semplicemente far notare l'assurdo, e poi tolgo la parola perché ho già parlato abbastanza, l'assurdo che in questa nazione, anche in questo Parlamento, insomma, chi è che scopre il reato dei milanesi, dei paparazzi, Cosentini, Casalese, Romani, qua non si è capito più. Vabbè, niente, allora... nel caso, no, rischia anche la denuncia da parte, insomma, di chi ha commesso un reato veramente. Ma reato veramente di banco. Sono due piani diversi. Siamo qui a combattere, un attimo. Ma chi stai chiamando aspetta, adesso? Aspetta, aspetta. Sì. Iva Zanicchi. Pronto? Iva? Pronto? Ti sei cascato ancora? Stavolta perché, sì. Ma perché ci caschi sempre? Cosa ha fatto la Zanicchi? Ora? No, per quel regalo che hanno fatto gli eurodeputati a Berlusconi, no? Ah, già, lo stupro, sì. Però non risponde. Squilla a vuoto, perché? Non fare i tuoi scherzetti adesso, non mi prendere in giro adesso. Il regalo degli eurodeputati a Berlusconi, una statuetta che rappresenta uno stupro, loro volevano farlo passare come un regalo e probabilmente è stato così, un regalo. Pronto? Sì, ma stai zitto, cretino. Ma come cretino? Hai scoperto chi è? Era uno scherzetto. Va bene, non risponde. Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Sergio da Macerata. Ci sei cascato ancora, eh? Sei un imbecille, Sergio. Ci sei cascato ancora. Sergio da Macerata. Buonasera, Cruciani, e grazie. Dunque, volevo chiedere una cosa, il vostro parere. Mentre gli immobili della Chiesa non pagano l'ICI. Ma veramente non è che detta così, gli immobili della Chiesa non pagano l'ICI, mi sembra esagerato. Beh, dica lei, allora me la precisi meglio lei. Vabbè, allora? Allora, io presiedo a titolo gratuito un istituto di assistenza e beneficenza che si chiama IRCER di Recanati. Bene. Con 70 anziani della casa di riposo, centro Alzheimer, eccetera. Adesso sì. Per risparmio. Sì, sì. Allora, noi siamo soggetti agli ICI. Noi abbiamo pagato l'altro giorno 10.000 euro di... Ma adesso io non so, che gli enti assistenziali, oggi c'è una bella inchiesta su Repubblica, ho visto, su quelli che non pagano l'ICI, lei non ha diritto all'esenzione? Non io. Vabbè, io non l'ente, quello che è, insomma. L'istituto, no, voglio dire... L'istituto che, in cui lei lavora? No, io non lavoro, io non prendo niente, e che io fa? Sono il presidente del consiglio d'amministrazione. Vabbè, insomma, quello che è... E questo No. Per dire, io non prendo una lira, l'istituto che è un IPAB, un istituto pubblico sì. Di assistenza... No. Sergio, a me se lei piglia una lira o non piglia una lira, non me ne frega niente, io voglio sapere solamente una cosa, lei mi sta dicendo che paga regolarmente l'ICI pur essendo un ente che fa assistenza, aiuta i poveri, gli anziani, i malati, eccetera. Sto dicendo appunto questo. E io quello volevo sapere, l'ho riassunto. Questo, allora, non le sembra una cosa... Non lo so, guardi, non ho idea del fatto, cioè so quali sono gli enti assistenziali che sono esentati, evidentemente lei non ha diritto, probabilmente non, dovrebbe essere esentato, non lo so, insomma... Se mi fa finire un attimo, sì, però adesso non è che ci possiamo occupare del perché detto con tutto il rispetto del suo ente assistenziale. Ma non è solo il mio, come il mio ce ne sono migliaia in Italia, cioè qui c'è una cosa veramente iniqua, sì. Veramente iniqua, per cui certi enti cosiddetti assistenziali pagano l'ICI, altri cosiddetti assistenziali non pagano l'ICI, e le famiglie cattoliche, caro Cruciani, sì. Le famiglie sì. Cattoliche quest'altro anno pagheranno l'ICI sulla prima casa, il clero cattolico non pagherà l'ICI sulla canonica. Bene. Ha capito, Cruciani? Bene, qual è Sergio, la questione? Grazie. Salvatore da Napoli, buonasera, veloce, siamo verso la conclusione, Salvatore. Lo sapevo, sotto con me. Vabbè, allora io volevo intervenire con per il fatto di ieri con Parenzo e Salvemini della Lega. Che ha detto? Non ha detto niente su Napoli. Ha detto molto e parla sempre a svanvolo su... Ma Salvini su Napoli sta... No, ma stavolta è stato Parenzo a dire che il fatto degli orologi del... I giocatori del Napoli che vengono rubati, eccetera, eccetera. Ma veramente l'ho detto io? Che ne sa? Parenzo manco lo sa. Sì, è vero, l'ha detto lei. È vero. Come io qua c'ho una bella lista di giocatori rubati e rapinati a Torino, a va Genova, bene, Salvatore, a Milano. Va bene. Però quando si parla di Napoli. Va bene. Non si sente male, si sente male. Nicola da Latina, buonasera Nicola. Buonasera dottor Cruciani. Vada. Innanzitutto volevo fargli i complimenti per la sua trasmissione e fargli gli auguri per le prossime festività. Bene. Bravo. E poi volevo fare semplicemente una considerazione sì. Su sul deputato Barbato. Ecco. È incredibile come ci si possa comportare nel modo in cui si è comportato il deputato Barbato. Se Barbato sa delle cose, dovrebbe avere la compiacenza e il coraggio di dirle apertamente. Non può fare il rigattino di dire, non dire. Lei, ho visto, è stato pronto? Sì, sì, la sento. Lei è stato molto bravo perché ha cercato in tutti i modi di farlo parlare e fargli dire delle cose, e lui ha detto e non ha detto, quindi lo ritrovo estremamente scorretto un comportamento di questo che ha avuto, e questo è lo spessore dei politici che abbiamo noi. Bene, grazie Nicola, per questa sera abbiamo finito, ma torniamo domani per l'ultimo giorno prima delle vacanze, caro Parenzo, l'ultimo giorno prima delle vacanze, perché dopo andiamo in vacanza per 2 settimane. La Zanzara va in vacanza per 2 settimane, però, caro Parenzo, noi ci siamo anche domani. Last day, e sarà un giorno meraviglioso con la Zanzara. Ciao. Se ti piace così, cioè se ti piace questo spettacolo quotidiano, ma tieni questa roba qua. Ti piace così? Va bene. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. La Zanzara.